svegliata con la call center del campo che si mettere con in faccia della nuova. Ci può uscire. Non riesce. Non sto. Non si dormito. Anche io lo ero. Sì, quando mi ha svegliato con la scontetta. Per dirmi mi chiamo, questa palla non c'era dovuta lei. Adesso mi aspetto. Io lo spengo dopo, però sto facendo sempre verso quest'ora. Capito? Così non rompo le palle che si altera, come della bola, a fondo della... I cliccati di appicciamento di Balaruzzi, mamma mia. A me non mi ha chiamato anche con loro, per dire che c'è mai che faceva di Pasqua, che ce l'ho qua, e poi era più niente. Tutti, e con questo io ora non mi vado a prendere, arrivederci. Allucinante, lascia perdere, non sanno come rompere le scatole alla gente. E poi ti chiamano proprio alle ore più pensate, o quando riposi, o all'ora di pranzo, mentre stai mangiando, sempre alle ore più lunghe, capito? Perché sanno di chi trova. Infatti, io lo spiego sempre, così non rompo le scatole, si abbia le luci. Oppure lo metto silenzioso, così non intendo, e squillare giù al telefono. No, anche io lo spengo sempre, che oggi è capitato che ho portato il timer qui, ero stato morto, mi sono sdraiato, sono andato e ci ha tornato come una pietra. Allora lì ne approfittano subito, ma rompe le palle, perché te guarda, e lui è io. Non c'è nessuno, non ha sentito nessuno, vabbè, ridormito, ma te mai. E ha sentito la signorina della terra, ma sai che ci permettono anche di fare anche i pappagalli, questi giubili, quelli che telefonano, fanno anche i pappagalli. Cazzo, la moglie ha domandato il numero di telefono, ha detto, ma se ne fa? Ma cosa dice, cosa è pagato? A fare il pappagallo, a fare il call center, se ne va? Uno da poco che stava assistendo, non so su che cosa, forse il cambio della luce eccetera, capito? Vedeva mia moglie un po' di difficoltà a sbagliare il telefono, già 2 minuti ha chiuso lui da solo, guarda, ha chiuso lui da solo, chiudendo tutti i rigurori. Sì, perché poi le donne si lasciano convincere. Io mi ricordo che un giorno sono tornato a casa e ho già fatto una cazzata via. Cosa fatto? È venuta quella della MC e mi ha mostrato diverse pezzo, le cose. E ha speso 1000 euro il pezzo. Mamma mia. Ma cosa mi voglio guardare, me la mangio, ma stai scherzando, non voglio assolutamente, a parte il fatto che lei c'ha passativamente, se non ci sono io non deve entrare nessuno, né lei e né l'aria, non devono aprire a nessuno, chiunque sia, capito, anche se conoscono a me, no, non c'è mio marito che non apro, uno, e poi non si compra niente, non riesco a fare, ma stai scherzando, a questa gente poi, vai vai. Assolutamente, sono invadenti, sono molto invadenti. E quello della MC, la verità, le pentole sono molto buone, non si può dire. Poi avevano, adesso non ce l'hanno più, avevano la garanzia a vita. Cioè, se si rompe con male, che te lo davano a pagare nulla. E tutte queste cose qua. E niente, sono state sempre utili con la verità. Però poi è venuto anche quello del colletto, stiamo cercando la signora Liliana e io sono il marito di Liliana. Perché dovremmo illustrare il colletto? Guarda, noi ce l'abbiamo già l'aspirapolvere, non insista, è venuto già l'altro giorno, non insista. Ma non sai che cazzo, siamo tornati 2 o 3 volte e hanno ciappato sempre a me, ma che chissà. E infatti, la stessa cosa, anche con la folletta sono venuti qua. Se vuole ci ha detto al telefono di venire, non per guardi. Quanti ne vuole che li riprendo? Non sono folletto, comunque c'ho quella, c'ho l'aspirapolvere perché c'ho il cane, c'ho il lavapavimenti, che non è della folletta, è un'altra macchina, non mi interessa. Arrivederci, non bisogna più tornare. Capito? Non sono più tornati. Sì, le mie ci ce l'ho anche io, va bene. Quella ereditata dal matrimonio, infatti lui quanto lontano il viaggio, ha aspetta, mi sta chiamando mia moglie di fuori. Mi accende la televisione, che è sdraiata anche lì. Mi accende la televisione che non la letta. La giornata è brutta. A che le finisce? Ah? A che le finisce di lavorare? Sto volando io già, rientro a metà marzo, sono dal 13 febbraio a casa. Ah, ecco, è vero, non volevo ricordare che c'è un po' preparato, ma e io ci stavo pensando che mi ho volato, che se sappiamo, ci non si era presentato tutto. E infatti volevo prendere la moto stamattina per scendere al lavoro, poi stavo con la giornata. Qui ci ho ripensato che per due momenti sia il massimo, adesso che a fine mese mi scade la assicurazione, la perdo, se buonanotte. No, no, non la sto prendendo neanche io. No, siamo, c'è freddo già, sembra così ma c'è freddo, anche se c'è sole c'è freddo, la temperatura ancora non è salita, magari metà marzo, ancora è fredda. No, è una noiosa, io esco solo una mezz'oretta la mattina a portare il cane, poi basta, poi giù un po' lì a casa. Però non posso rientrare ancora, adesso vediamo metà. Il 15 mi pare, mi scade il certificato, vediamo come sono messo. Maria, è una paranoia, io lo so perché anch'io, ma la tempo fa sui piedi. Tutti quei bovini, non puoi uscire, non puoi fare nulla, e devi uscire a quelle ore lì, perché se per le scale non trovo a casa qua, ma anche adesso non ci hanno manco i soldi per pagarmi le confiscate, perché mi stavo dicendo un dottore all'ospedale, che c'era questa infermiera che praticamente le malattie la vedeva in discoteca, le colleghe, eccetera, eccetera, allora lo avevano segnalato a direzione, e avevano chiamato gli uffici per portare il dottore, ho detto guardi noi non ne abbiamo i soldi per mandare i dottori, se volete mandare per avere un dottore privato, noi non ci abbiamo i soldi per mandare i dottori. Io invece me l'ha mandato l'azienda, non ti preoccupare, prima che terminasse la prima tranche, all'undicesimo giorno un po', o all'undicesimo giorno, adesso mi ricordo, c'è anche scritto il certificato. C'è scritto visita a domicilio richiesta dall'azienda, non mi interessa io a casa qui, c'è scritto il medico, sono contenti, e tu lo scrivo, sì, lo scrivo, glielo mando, e l'ha mandato che appunto non le do neanche ora al rientro lavorativo a causa della grossa infiammazione alla gola, quindi questi sono contenti. A me addirittura una volta sono andata a vedere la casa di quest'altro che era in costruzione, la stavano costruendo. E praticamente c'era una pignata che erano, c'erano ancora le pignate, ancora diciamo senza mettersi il pavimento, né niente, no, ancora era in greco. No, mi sono accorto che ci mancava questa pignata e ci sono sceso giù con la gamba. E lo sbaglio sul cuscino. Tu lo sai lo che cuscino, la cucina della spina dorsale. Certo, sono svenuto a oggi, però poi non si è occupato di ciò che c'era la casa di lavoro delle buche. E lui per farmi vedere, ma prima come si fa di cantina, se io mi faccio avere i voti e le buche e perdevo tutto il filo. Beh, fatto sta, da Caniga, Sassari, là, ho guidato, non so se lui o come, ti spiego, perché se appoggiavo dolori della bronca, sono arrivato a casa, a capo, un dolore dove potevo sedere, mi ripercuoteva la spina dorsale, e mi sono messo malattia, e mi hanno mandato a medico fiscale, la azienda, sai che cosa aveva fatto? Era una donna a medico fiscale, mi ha visitato, e mi ha detto, che cosa c'è esattamente? Aia! Mi ha detto, guarda, chi più di me lo può capire, altri 15 giorni di malattia mi sto dando, perché il coach già fratturato l'ha portato anche, so cosa vuol dire, si compra non la ciambella per sedersi, perché ogni volta che si siede deve fare qualche maschera rossa, e adesso già lo so perché già è successo. Altri 15 giorni magari. Mi fia. Aspetta, devo mandare un messaggio a mio cognato, gli ho mandato una scrittura, non capisce. E gli traduciamo, aspetta un secondo. Eccomi qua. Sì, gli ho mandato una documentazione, ho fatto la foto su coso, su WhatsApp, siccome l'ho scritta a mano. Capito, roba di cantiere. Mi ha mandato un email, non si capisce un puntini puntini. Deve essere che c'è il critici dove scritto. No, stavo scrivendo in fretta, ero in macchina, quindi un po'. Ma io lo capisco perfettamente. No, siccome ci hanno mandato un email, dice, ma i puntini ti sei dimenticato, no, devo prendere info punto, chiocciola, eccetera, eccetera. Ci sono i puntini, quindi è dove non la vici. E poi ci sei entrato a quel programma dove si fa ascolto la diamantoria? Quel programma che c'è già un plano? No, non ci sono entrato perché devo inserire mi sa cosa usci. Ieri l'ho visto, mi passano tutti gli spot, però non sento la voce. Devo inserirlo bene, dopo lo accendo. Google Pro 600, anche Google normale va bene. E io ricevo, metti Italia come bandiera, metti Italia, e poi se vuoi puoi cambiare anche paese. Vai, come si dice? Cioè, c'è una voce che praticamente tu vai lì e ti cambia paese. America, Canada, insomma tutto lì. Sì, ce l'ho quella pagina, l'ho vista, non sento solo la voce. Capito? E quindi devo vedere. Dopo accendo adesso, ho solo il cluster acceso. E poi l'altro, vedo già qualcosa in 20-20, c'è preparazione un po' bassa luce. Marco, che ne so, è 5 e mezzo, ancora bloccato la sì. Poi Marco non c'è una polizia. Quanto stavo dicendo, io non sono andato, però ieri mi da fare la batterata perché andava a me. Ieri me lo da batterati, spettate e imparò. E c'è un po' di ritardo, e vabbè. Te lo fa così, un po' di ritardo rispetto alla modulazione normale. Vabbè, mi serve poco l'HF, no? Non è che, però il programma è già un franchetto molto bello. Augura essendo, così. Cosa dice? Io sto seguendo tutto il baravanda del computer. Povera mannaggia, che paranoia, cazzo, mamma mia, andare zetti. E poi l'altro mese non esco, capito? Questa era alle 5 alle 7, detto in mese va. Ti siedi qua, hai finito di uscire, guardate, poi alle 7 esci. Boh. Invece la mattina hanno messo questo orario di merda, proprio alle 10 a mezzogiorno. E certo che si può uscire, stanotte è venerdì e c'è spettacolo per fare. Si può andare in qualche locale, mangiarsi una cosa e si crepe, ma ci senti molto, vedere come si fa. No, stasera no. Non è la prossima settimana, stasera no. No, piano, non ho voglia. Non ho voglia e poi no, non ce ne ho voglia, lo stesso che non sento molto bene, fate il a letto, gli ho acceso la televisione. Venerdì, oggi, questo venerdì passato in fretta la settimana. Ma qui già vivo la venerdì. Domani è sabato. Perché è venerdì che è bello, perché c'è musica dal vivo, e giocare, eccetera. Poi il sabato dove tagliamo musica, non va da nessuno. E vabbè, il venerdì solitamente si esce. Fine settimana, venerdì, si riscontra più venerdì. scendo molto questo liquido, poi scendo poco. Quando esco non vado in piazza, con taglio, così, quando tiro. L'altro giorno ci sono saliti in piazza, con taglio, c'erano le maschine, e dopo non le vado in piazza. E mi sono fermato, a un certo punto vedo questo tronco di cane salendo con questa minigonna, e quando camminava ci mancava poco che si dovesse rilassare. A un certo punto me la stavo fissando e non era una mica mia, mi prendi i cani e mi abbracciati gli articoli che via. Vabbè, no, io vabbè, già ciò non scendo col cane lo stesso, la mattina, una sera sul tardi, poche, conoscendo io l'hanno già portato gli altri, io scendo sempre a ultimo, ci sono poi le ragazze qua vicino a casa e hanno due camioni, niente, no, non fa stasera perché l'aria è di chiusura, capito, adesso andare 8 va, rientra l'una, le due. Se no non avremo messo la prossima settimana, che non è di chiusura, ci possiamo organizzare e andare, K, se la capignana ci mette da parte i soldi, se non si rispende è incazzate. E appunto parlo, perché lui si rispende, da poi non la prima, ma siamo tutti uguali, e anche io. Fai questo, fai l'altro, ora devo pulire con la macchina, mi dà di quella pulizia. Le gomme però sono molto importanti, perché mi dà fatto specialmente. Noi ho preso niente, dove vado io, li ho messi tutte e quattro. Tutte e quattro, nuove, 147. Ed erano 120 mi pare l'una, me la fate pagare 100, 400 euro, per carità, mi fa cose da Alessandro Pina, e vado sempre lì perché amico di mio Mario e mio genero, capito? Come service. No, io vado via Pilandetto, io le pago 75 euro l'una le compro. Vabbè, forse sarà una transizione, non lo so, però quelle migliori proprio me le ha fatte 75 euro dalle Kleber contro l'acqua, frenata di lusso, eccetera, eccetera. Me le ha fatte 75 euro, costavano di più, me le ha fatte 75 euro, perché sono pieni. Io cambio anche l'olio della macchina, mi do per poco. L'olio cambia rapporto da Franco a Luzzetti, io non voto di 197, ma è molto pericoloso fare cose, ci avevo un sensore che mi si accendeva la spia e mi mandava in protezione, oltre 2500 giri la macchina non andava, mi andava di pisci. Ho preso tutto il lavoro, il sensore, ho messo due candelette nuove, poi li ho fatti, due tubi bel di bimetro, turbina, lascia perdere già con la macchina, sono vicino a 100 euro, sono già preso 3-4 Kleber, no, se non voglio un Kleber, la mia sono troppo leggere già, ci vuole 205 io. Sono un po' grandi come l'uomo, io ho le Continental che sono molto robuste. Le durano un po', e poi anche la frenata sul bagnato è studiata, è bloccato tutto lo striscia. Se non è che siano consumate, ma anche per sottolineare le robuste. Io ho messo sempre un Kleber o Michelin come ruote o paio, per tre marche che l'ho sempre messo. Altre gomme non ne ho mai messo, io vedo i miei colleghi che mettono come dici, marche strane, che ne pagano poco, io covo, le marche giapponesi e cose ne pagano poco e non si sa come sono, poi magari vai a frenare, ti fa chiedere la macchina e come buono, sono come io come sono come ultimo, c'era come l'Audi, io stai scherzando, sono come buono. No, io lo metto sempre quelle, o quelle o fare stanziere, però le ferro. Perché riesco troppo leggere e fare quel capito. C'è problema, ma vabbè, la mia c'ha BS doppio. C'è l'autocontrollo della stabilità anche sul bagnato, non c'è un problema. C'è un po' la stabilizzatrice dietro, già, sono due macchine diverse. Tu hai dici un paio, quindi io quelle devo mettere, quelle dice il manuale, quelle devo mettere, perché sennò è pericoloso. C'è un bel cavallo, già ti si può girare, è tenuta la gomma, se no si frega. E comunque tra i gommi è tu hai come tra i gommi. Io il mese scorso a febbraio tra gomme è messo a punto di macchina, gli ho preso 200 euro, vai da due. La parola è la macchina, però c'è c'è nessuna persuasione. È bella città, dipende, dipende Gianni, dipende, tu che viaggi lo sai, io che viaggio lo so, ma se non va trascurata, devo cambiare l'olio, devo cambiare la presenza, devo cambiare un gommino, e attira l'usci, sento l'omolino e attira l'usci, no. Io la cica distribuzione l'ho fatta ai chilometri che mi ha detto Franco, sempre come il mano a sede, tutti i comandi, qualsiasi cosa, io seguo quello che c'è scritto, senza aspettare né prima né dopo, perché altrimenti fai casino, capito? Gli ho fatto cambiare tutti i tubi in gomma da Franco, tutti, dal primo sino all'ultimo, tutti. C'erano all'avviamento, praticamente, perché ti segna il riscaldamento automatico, si spegneva in ritardo la spia delle candelette, non sono bruciate, però sono già usurate, devo fare, metti le nuove, non stare lì a tirare e molla, anche se non sono bruciate, metti le nuove, si già sta segnalando il computer che le candelette sono usurate e tardano a spegnersi, allora buone le nuove, non stai anche a girarti, capito? Tutti i filtri lo stesso, non puoi stare con un filtro dell'aria, filtro dell'olio, filtro del gasolio, filtro particolato, filtro del... La mia è tutta mia dei filtri, quindi vanno cambiati ogni 15.000 km, ogni 15.000 km vanno cambiati, non è che aspetti a 50.000 km a cambiare. Sempre io la cica della distribuzione, la mattina l'ho fatta tre volte. Ma io no, però io ho la metà dei tuoi di chilometri, però se doveva essere fatta 95.000 km, a 95.000 km l'ho fatta, capito? Solo la cinghia di distribuzione, costata 500 euro da Franco, che lo sai che Franco non regala nulla, eh? Sì, ma una cosa è certa, che quando la butti in quell'ufficino la macchina esce dentro il difetto, invece in altri ufficini magari se c'è quel difetto se lo rifà. Da lì c'è perfetta, perché Franco fa corsi di aggiornamento sempre, va anche con gli elettrauti, perché con la fila della PS c'è un po' di elettrico, un po' di meccanico, si trovano anche con l'elettrauto di Fotosolis che conosco io, nei corsi, vanno anche il cliente, vanno anche le parti per fare i corsi. Lo so perfettamente, lo so, ma infatti, secondo me Alfa Romeo, lui fa Alfa Romeo e lì deve entrare, non te ne stiamo a girare le balle, vedi Alfa Romeo è bravo anche Roberto Rogliani, perché il signor Renato ha sempre fatto Alfa Romeo. Sì, lui fa anche la Opel, oltre che l'Alfa Romeo, perché se tu guardi, c'è Bartolo e Truccia, quello di Portatore, se li ricordi. Uno dei due lavora lì con Conte. Vabbè, non tu parli quelle macchine, Massimo Pellatti. Quale macchina? La mia? In Opel, molto bravo Massimo Pellatti, Opel e Volvo, produttore, molto bravo a Zanussia lì dove c'è la Bartolini. Sì, sì, lo so, qui a che parte, esatto, in realtà dove abitava Bartolomeo. Esatto, è stata la che portava Santa Tego, eccetera, eccetera, dove c'è il nostro campanone, via dicendo. Io c'è certo l'età, mi giro io. E io. E comunque già, per tagliare corte così, una macchina vuole portata da chi lavora bene, da chi è specializzato in quelle macchine, non tu porti l'Audi, la porti da Giovannino e non la porti alla Germancar, la Volkswagen appunto va portata al suo posto, cioè le macchine vanno portate, la Opel lo stesso va portata da Zunino, cioè. Poi ognuno ha il suo meccanico, giustamente, però le macchine è meglio, soprattutto quelle come la mia, che è tutta computerizzata, bisogna portarla alla Faromea. Io una volta c'avevo una spia accesa, sono andato lì da Franco, vicino a Walter, Usai, via lì, c'è il capitolo, poi c'è Rubi di Lugo, anche adesso lavoro con lui. Ma il boh, può se, non può se, ma scusa, il computer ce l'hai, no? Attaccalo, Sì, vedi, me lo dà, però ho bisogno. Vabbè, adesso vedi, sono andato a Franco, questo che problema c'è? Questa spia cos'è? Ti dico io cos'è? Vedi il computer, attacca il computer. Ti. Per vedere, no, niente, nulla. È un basso livello. Metti l'olio al, non so cosa ha detto. A posto, a zero la spia. Quanto è fra? Ciao, girami le balle, ci vediamo la prossima. La gente, capito? Sì, vado qui. Meno assolutamente, c'è una settimana, dai. Sì, dai. non sapete. E dopo, boia, anche questa stamattina sono andato a stare a vedermi al corso, voglio dire sì, a farmi le chiacchierate un attimo di sacco. Voi fate la mia mamma e Maria De Filippi, a me fate gaga. No, ma non lì, non mi fa la prima di me, mi fanno la prima di studio. Anche quelle possono essere storie vere, storie false, non lo so, se tutto, ormai la TV sta diventando tutto un magna magna, un compra compra, per carità. E vedi, visto che c'è al Brico, Marco, entra lì e aspirati la macchina. No, vedi, non ci sente neanche, vedi. Lasci come te la regoci, che se la vendi la macchina oggi va poi tutta la gira. E anche io me la dovrei fare, ma non mi dà cuore perché non si sa mai che piova di nuovo, ora che già sporca. Perché esternamente ce l'ho ascoltare tutti, ma esternamente me l'ha fatta tutta quanta marrone. Lo so, chi è che vuole entrare avanti? Mi sono dato una importante, a 960, Antone Mattucci, non stai uscendo. Vabbè, ci vuole entrare il canale aperto. Non andiamo via nessuno noi. Per tutti i canali. Avanti Marco, dove sei? Sì, movimento, dai. Movimento, sarà tempo che mi veda Vigilio Urbani, no, con il microfono in mano, sono uguali. Esce bene per la radio, che radio? CRT, esce 2009, quello piccolo che ha una vacanza. Ascolta, ma il microfono è normale. Sì, è quello originale a condensatore. Esce bene. Bello, una bella radio, bella lì, davvero. Sì, e poi fa forse come l'ha attaccato al muro, stava facendo rientro, capito? Guarda, vedi, così sono, ci chiede se da dentro. Così sono, vediamo, si sale adesso, Non cambia nulla, manco di un millimetro. Si copre la mettere sulle gambe così non si vede. Vega, lo tengo imboscato, dai. Esci perché se ti fanno qualche pattuglia, almeno qui ci viene appoggiata purtroppo. Appoggiato? Appoggiata sulle gambe. Io vorrei un'altra cosa appoggiata sulle gambe, una bella piscina. Un trozzo del pitch. Vabbè, non è entrato nessun altro. Eugenio non è entrato, Gianfranco non è entrato. No. Sono entrato io, poi mi ha reso un po' la tappa del Luigi, spero svegliata. E io, il diafano, ero un po' incattalesci. Cosa devi prendere da Brico, prendere Marco? No, nulla, guardare un po' di materiale. Materiale vario, assortito, lì, i vigili urbani sono passati. Non hanno visto nulla, nulla. Te lo mangi, ti dicono, tanto lo sappiamo che c'è il microfono sulle gambe. Abbiamo ascoltato, ma tu lo sapevi che la stradale prima ci aveva, non so se ce l'abbiamo ancora, siamo alla baracchina 27, ascoltavano i camionisti, tutto qua. E praticamente io ho un amico che era della stradale, mi ha detto che anche il continente li usava, c'era un'antenna, tutto qua. Sì, sì, altro che, una volta si usava, altro che. E ti scamavano di brutto. Bene, dai, riprendi Claudio. Per forza. Non si può tenere niente. Come che c'è il telefono in mano? Eia. Sì, a proposito di Domini. Siamo andati da Lido, no? Poi siamo tornati nel pomeriggio a casa. Se io avessi toccato il cuscino, avessi messo la testa sul cuscino, addio, a quest'ora sarei dubbio. E mamma ha detto, ehi, addormentati, cioè invece di spronarmi a dire escite, mi ha detto, ehi, addormentati, invece no, oggi sono voluto uscire. Quindi la colpa di chi è? Bravo Marco, bravo, hai fatto due esci, però ci manca la compagnia. Te l'ho detto che avrei voluto una piscina seduta sulle gambe, o con la sua testa tra le gambe. Pornografa. Non è stato sognare fa bene. vieni qua che ti porto, ti faccio conoscere un po' di ragazze qua. Comunque è vero, è già. E quando hai il cane conosci un bel tipo, dov'è? È un video. Ma ne ho conosciuto anche una ieri sera. E questa qui adesso ha detto che torna, che prende sempre in zona adesso. Perché ha fatta la vita che conta è sempre la mia. Oh, così è. Ma cos'è, cane piccolo? È un tipo un barboncino, però di quelli grossi, quelli grandi, là. Sicuramente un incrocio. Tipo un barboncino con la testa di Yorkshire, e un po' non si ricompra per me. No, vabbè. Cazzo incrocio di cane da vecchia, eh? E di quelli più... Non so se c'è da presenti che hanno una testa tipo barboncino di Yorkshire, un po' di Yorkshire. Sono grandi però, sono più grandi della testa di Italia. Ah, così è. Ripeti, ma... Sì, ragazza, io sono rimane un boccone. Ma hai detto che ha sì, dico, bravissimo, però dico se c'ha fame. Sì, è un dio. Ma però ce l'hanno fatta solo di carcere, non ricordo male. E vabbè, ma era piccolino, no? Era un pitbull anche bello grosso, gli ha rotto le palle, si è girato, ha preso bello brutto e l'ha stato in aria. Questi sono cani che tipo il boxer lo fa tranquillo, gioca nell'uomo, gioca con tutti i cani, non aggredisce nessuno. Ma guai, certo, guai se riesce a che cosa? Il boxer, dico, come indole, è un bel giocherellone, bravo, anche con le persone. Io pensavo che fosse un cane cattivo, invece non è così, è molto bravo. A parte vabbè cosa c'hai, perché una volta siamo andati a casa di amici a Sorso, a trovare, c'era il boxer che aveva i figli, ed erano tutti seduti in campagna, seduti al sole. E io mi sono avvicinato, ma dei figli per accarezzare la mano che si abbatte. Mi si stava avventando la mano. Oh. Sì, ed era un boxer. Se meno male che l'ha fermato la padrona, perché se non mi veniva addosso. Vabbè, ma sono i piccolini, non ti puoi avvicinare. Ma così vedi erano, ma non chiaro, vedi, brutto, veramente vedi. E adesso sono tutti belli mossi da piccoli. Sì, se mi ricordo l'Italia che faceva asciugare quando era piccolo, oh, anche adesso, ma quando era piccolo tutti lo volevano, anche mia, chi mi chiedeva se lo perdevo. E se lo metto, no, lo compro io, guardi quanto vuole, mi dice quanto vuole, me lo compro, mi piace troppo. Una ragazza una volta si è fermata, no? L'ha preso in braccio, era col ragazzo, ma con cagato il ragazzo, l'ha preso in braccio, taglio. Ha cominciato a baciarsi tutto quanto, ha detto, ah, io sei pure preoccupato perché se ne è bello, perché io pure no. E fatto sta che... perché non se ne andava più. Oh, non c'è il bello, me lo dà. Sono tutti belli, che dobbiamo andare a piccolo, non va bene. Ma sono belli anche la grande, esatto, la famiglia, va bene. Io guarda, sono quasi intenzionato a scendere a Cagliari e prendermi la fetta. Però qui c'è troppo da fare, troppo, troppe spese, troppe cose. Sto pensando per chi ha detto, lo tratto come già lo sai, se li compro un cane, li compro questo, li compro l'altro, ci sono per i soldi di trattare, quindi raddoppiamo le spese. Lascia perdere, anche Ilaria c'è sempre quell'intenzione, e compriamo la femminuccia a Filippo, vai Dini, adesso non compare niente, abbiamo altre spese, quando sarà tutto finito il progetto che abbiamo, allora vuol dire ci sarà lui, lei e anche gli altri. Ci passano le parole per farti scegliere, le pagate anche la casa per la ripagata. No, non ci vuole un allevamento, a me basta Filippo, loro sono giovani, fanno quello che vogliono, a me basta Filippo, però dico, se ne arriva un altro della stessa femmina, molto inglese, va bene, però c'è il posto, capite, c'è il giardino, c'è tutto qua, basta, non... la mattina io sono a casa adesso non va a vedere cosa tutto c'è da pulire qua e tutti i giorni aspira polvere, aspira qui il coso per le poltrone, tutto sempre, tutto, 2 ore di lavoro c'è, tutto perché il cane per televisione tutti i giorni. Anche io sono così, la stessa cosa. Aspirare, pulire, lavare, disinfettare, io ti metto sempre, quando lavoro sempre, come si chiama? Sempre disinfettante, la mucchina, teoform, tutti quei disinfettanti lì, oltre a mettere se ci compro la parete non li metto più lì. Se compro da Europa si chiama Teoforno, se no non Teoforno. Io c'ho la mucchina, la mucchina, la mucchina, la mucchina, capito? C'ho anche in gel per le mani. Quindi immagina, c'è di tutto. E mi devo intirmi, no? A compro di Maria, ma mi devo intirmi. Quindi, una volta quella per terra che si asciuga, via, un'altra passata, altro pavimento della mucchina. Disinfettare tutto con la mucchina, tutto, qualsiasi cosa, le ciotole devi lavare tutti i giorni, tutto disinfettato con la mucchina, tutto già, il lettino tutti i giorni spazzolato fuori, aspirato, disinfettato, messo a asciugare, un lavoro, cazzo, mi fate male a te che mi piglio un altro cane, no, già. Voglio paranoia. Sì, ma se tu vai a un capitale, la storia è diversa, perché se per scala non tieni fuori è un conto, se lo tieni dentro a casa è un altro conto. Ma non ti credrei che sia molto diverso da quello che fai qui, la stessa cosa faccio io. Beh, lì è diverso, lì c'è un sistema diverso. Diventa una sorta di c'è il posto per il cane, capito? Suo habitat, ha chiuso però il suo habitat, quindi no, non ha contatto con casa. Rimane essere interrato, poi ci fai l'altro per trovare maniera. Decideranno i padroni, non io. Dove sei arrivato, Marco? Sono da Ocean. Sto scendendo, bene mi ascolti, questo apparato ha 15 watt in AM. Sì, benissimo. E a dopo, ciao. Mi sono andato a vedere che si stava sbagliando l'hotel, solitamente non abbaia mai. C'era un incarico che stava abbagliato, abbagliato anche lui, ancora abbagliato. E poi quello che vedi fa chiamare a me, capito? Abbagliava e vedi fa faccio di me a letto a chiamare. No, pure non mi frega niente, se stai nel pianerotto perché si incazza la tazza, ma sì, capito. Ma lui mi lascia la tazza aperta, si affaccia, capito, si affaccia la tazza, si guarda, sta la situazione che si dice. Se senti, senti l'altro cane appaiato. Adesso non gliene frega più nulla perché ho sentito che è stato salvato, ma dove si ricordo, non ha più appaiato. Comunque hanno scoperto dove era la... scusa del corso, per la medicina. E dopo hai visto quella strada, la strada nuova che c'è da casa, io ho portato qui, ci sono delle piante che una signora fa una piante che è tutto di due e cose. Dice che da lì che ti hanno messo un marmicida o cose del genere. Oh, lì era. No, da noi proprio nella... il cosiddetto umbini. Sì, anche vicino a casa la nostra cosiddetta umbini, a volte magari non passa le mette umbini, rimane sulla sbarra del tubino, tra una sbarrellata non passa, rimane sulla cosiddetta umbino, il cane è curioso e proprio mangiata, è normale, quindi Tyson non tocca un capo la terra, però sai che cosa c'è, la natura di leccare l'erba, ha sempre utile e ha fatto anche di qualche cane. Vale, cane. Non leccare, non leccare il pannuccio, è buco. E anche lì bisogna stare attenti, come mi ha detto il veterinario, bisogna stare attenti anche lì, perché può essere infetta la pipì dell'altro cane e passa l'infezione al tuo, capito? E infatti io dico pucci e quella bolla su. Però tanto ci sente, se si cagna in calotto che c'è la inserita, mamma mia, diventa scemo, tu sei qui alla casa, l'hai mai visto che hanno usato un frate freddo, tutti i figli a casa, una cosa vicina. Io gli ho passato un calotto, subito la ricomincio, la lontana, poi c'è subito un gatto andato, un burretti, e la fanno, ma è tutto in calore, la mia cagna la lontana, perché c'è un fuori. Non si va bene, non andiamo, lì stava già facendo l'inizio, stava 5 minuti, ok. E anche io tutto devo andare a cambiare la polizia. Sì, beh, 5-8 minuti, arrivo subito. Attenzione Eugenio, cambio. E beh Eugenio, sto avviando un attimino a fare delle telefonate, sta arrivando il cinema. E beh, se lo spiego, pensando. Ma il piede, stai camminando? Ma stai già caricato del tutto senza mettere la scarpa? La paga, hai fatto proprio. C'è anche io, grazie a Dio che si sta chiudendo tutto. Cambiato rotore, cambiato tutto. In 2 settimane vale sotto il problema, io ero cambiato male 4 mesi, se tu non si muove. E allora? C'è il dottore che mi stava curando, ci ha detto all'inizio, questo dottore ha detto all'inizio la cura andava bene, perché era fresca la ferita. Ma poi no, perché cosa succede? Che ti brucia anche le cellule buone, non sono fatte, ti si forma la pelle morta, tolto, il callo, poi non te la fatti. Dopo che tu la vedi che è fresca, devi metterci una gara con la gomma, la comitina, e ti passa un po' con te. Fai cogliere sul suo. Dice, mi dispiace però, perché mi colleghi non fanno mai male, però qua stava facendo prendere il piede per poco e stava arrivando all'osso. Era posata, mi interessa che era contato, non proprio. Prima o poi gli darà la volta anche per lui. No, è una questione solo di tempo, io penso. È una questione di tempo, bisogna avere pazienza. E poi se ne dimentichi pure di avere avuto piede così. Io lo stesso sono stato fatto a menisco, legamenti, io cosa non soffrivo, cazzo, per alzare la gamba, ma per scendere. Dovevo prendere con l'altra gamba, metterla sotto e farla tutto, alzarla con l'altra gamba, appoggiarla piano piano, secondo me non appoggiava, era lui te la trovo. Eccomi già. Ehi, amica, è stato un giro. E io l'ho sentito a lontano, ciao G. Sono ancora a telefonare. E G, no, aspettava che ho provato a fare una volta in corso. Però una paranoia che ti stai sdraiato, sta la sera da buia. Ti ripete già buio. Poi ti passa la sera così. E vabbè che sono libero la sera adesso, devo approfittare perché mi hanno cambiato il tipo di nuovo. Perché? Devo venire qua di nuovo, no? Di nuovo mattina e sera che l'ho messo. Magazzino. E il magazzino sempre, sì. Mattina e sera, per 2 ore e mezza mi sto facendo anche la sera. E una volta la settimana o la sera sera. Ma non va bene, io devo parlare con le principali, che non va bene. Spreco di benzina, ho fatto delle spine, non mi conviene, non mi conviene tutto scendere. Mamma mia, ne aspetto che ha fatto io. Ma è lo stipendio sempre uguale. Allora mi fanno fare lo spezzato, mi fanno fare per dire dalle 8:30 alle 9:30 e poi mi fanno fare dalle 4:30 alle 6:30. Trova una scusa già e dire non ci puoi andare, che hai problemi. Ma infatti, no, io te l'ho già detto che infatti sto scendo a nulla adesso, non mi frega nulla. Detto, togliete per la cosa, ma questo deve guarire, non c'è nulla da fare, adesso questa volta non mi arrendo più. No, c'è come dire. Intanto non paga niente o la benzina, il gas, capito? Perché serve una persona di sera, ma quello che ti faccio di sera, te lo faccio di mattina. No, è quando c'è la gente che poi consuma la roba, che consuma di metterla, ma se quando c'è la gente non ci hanno mai fatto roba, entriamo alle 6 di mattina per sistemare la roba, per non fare scattare la gente, per non fare la roba dove c'è la gente. Tutto organizzato, eh? Sì, io già ho capito che ci ha messo bocca per lui, capito? E lui che ci ha messo bocca, non me lo tiene nessuno la testa. Cavi brutto là. Ehi, il mio ex amico. Guarda, già io te l'ho già detto 3 volte. Intanto non sapevo che lui fosse finito in quel gruppo, perché ci siamo presi di vista un sacco di anni. E ci eravamo visti un anno alla festa ero fermati, ma due chiacchiere così, proprio sempre uguali, sì, tu c'è per quello, ciao, ciao, e basta. È possibile che è più amico di mio fratello, capito? Però non era così, evidentemente nel crescere davvero un ruolo che ha, nel ruolo che ha, il suo comportamento è cambiato, perché non era così. Quando uno tocca la festa, ma non lo sa che ha fatto, lo sa che fanno già fare questi tipi di lavori di responsabilità, poi come sono stati i miei nipoti, allora hanno messo a fare il commesso e i miei nipoti hanno fatto quello che facciamo noi. Però adesso è ritornato perché ha cambiato la gestione. Come quell'altro, cerca di capirmi, che sia andato in pensione, amico di A, già hai capito, no? Di Coso, no? Amico, fratello, scusami, fratello di, c'è capito di chi? Poi l'ho conosciuto al di fuori, tutta un'altra cosa, all'interno della tua società, il fratello stesso ha detto che è un grandissimo pezzo di merda. Sono formato dei gruppi adesso, sono dei gruppi che cercano di comandare, di fare, anche quelli giovani che c'erano, che non volevano uno schiavo, cioè si hanno formati gruppi, capito? Hanno fatto, fanno le cose, fanno anche a rete, e quindi pensano di comandare anche loro, capito? Oggi ne è già stata una e non è bastato. Cazzo, gli ho portato la verdura, scaricato la verdura e arrivata, l'ho portata col monetino, l'ho portata fino alla fonte verdura, certo te la lascio qua, ci lasciamo la cosa che, ma l'hai controllata, certo che l'ho controllata, però devi dirti se l'ho controllata o no, e mancava anche un paio di chili di roba, e le ho segnato. No, chiama a me quando ci sono questi problemi, perché sempre lo fanno, chiama a me, già mi sta facendo, scusa, ma io sono 35 anni e faccio questo lavoro, se permetti il mio lavoro lo so fare, non c'è più di chiamare a te, sì, ma poi ci sono problemi qua e là, guarda, magari io stavo per una bella merata, lo portava pure, e a mio marito, ti stavo aspettando contro la spada, perché anche tu rimani incancarato e tu quando ti hai detto che ti trasparo, ma io te l'ho preso, cosa devo portarmelo io, già che ci siete così non posso camminare, capo, tu mi aspetti che io ti possa trasparo a te e io devo fare il lavoro tuo e tu a me non lo fai il mio lavoro. Cari dai, tu immaginate già, a te perché sono 13 del personale senza direttivo, stai parlando di responsabilità, c'è un ragazzo di 22 anni che è responsabile, responsabile del personale, nel turno che c'è lui, comanda lui, capito? Comanda lui il personale, al di fuori da quelli che sono i titolari, che cioè titolari è quasi sempre presente, se non presente sempre, o in apertura o in chiusura, ok? Però questo ragazzo, ti sto dicendo, l'azienda ha dato la responsabilità, c'ha 22 anni, perché è un ragazzo molto preparato, è un ragazzo che nonostante sia piccolo di età, ha iniziato da piccolo a fare questo lavoro, conosce molto bene tutto il sistema lavorativo alberghiero, perché si è trovato molto molto giovane all'alberghiero, e c'ha 22 anni e comanda tutto il personale, sai quante volte? Ci sono ragazzi grandi, ce ne sono due mi pare che siano addirittura più grandi di Ilaria, sui 31-32, ce n'è uno di 28, uno di 26, e a volte ci lamentano, ma cioè, no, mi deve dire quello che devo fare, fai quello che ti ha detto e non rompere le scatole, vuol dire che ha deciso di fare così, sì, ma non si può, non c'è da cambiare niente, questo è il programma, lui sta seguendo un programma, delle direttive, è quello che vi dice di fare, dovete fare. Ci sono sono sempre questi personaggi che è così. Ma io non ho capito la cosa. Se erano presi un franchising loro oppure c'è un principale che gestisce la cosa. Allora c'è un direttore, praticamente direttore maggior azionista, ok? Che diciamo che è l'unico che ha carta bianca, nel senso che può decidere di far entrare senza. Di far entrare no, perché quando hanno assunto hanno fatto prima, si sono consultati tra di loro, hanno fatto tutte i colloqui, eccetera, eccetera, hanno visualizzato un po' tutti quelli che hanno mandato il curriculum alla partita. Dopodiché ti dicevo, c'è un responsabile unico che ha la quota massima, ok? Gli altri sono tutti soci di minoranza, però quando devono decidere decidono sempre tutte e quattro, mai il più che può farlo, però Adriano dice sempre assolutamente, quando c'è qualche problema si decide sempre, poi è chiaro che lui ha più voce in capitolo, nel senso che può prendere la decisione unica lui, capito? No, quello è, non ce n'è di sono quattro titolari praticamente, uno di maggioranza e gli altri di minoranza. Ecco, per sindaco e gli assessori, sì, adesso ci facciamo andare avanti. E oggi è così perché tu c'hai delle direttive da rispettare, hai capito? Come me, è la stessa cosa. Io ho la parte della conduzione, nella parte della conduzione comando io e ho i miei responsabili che devo dire quello che sto facendo, quello che mi rimane da fare, cioè è chiaro che sopra c'è sempre qualcuno che ti dà le direttive, no? E tu le devi dare agli altri. Capito? Tutto lì, no, già, non è una SRL, è una società, la responsabilità limitata, dove ci sono quattro soci, ti ripeto, uno è quello che ha la quota un po' più alta del 10%, le altre quote vanno divise sugli altri tre, capito? Nel senso, anziché essere 25, uno c'ha il 30 e gli altri devono dividere gli altri quote, ok? Tutto lì. Però sono tutti e quattro allo stesso livello, comandano uguali, solo che c'è quello che ha la quota più alta praticamente se al momento di comparare ha messo più soldi e quindi a parte il fatto che è un dottore commercialista, quindi è una persona molto grande, non è un ragazzino. Adesso ci sono uno all'età mia, l'altro è un po' più piccolo, poi c'è l'altra ragazza che ha un anno più piccola di Ilaria e basta, capito? Tutto lì. È così oggi, è così, quando si ha una responsabilità, ma senza per peccare di presunzione con nessuno, quando si ha una responsabilità è chiaro che non sei tu che comandi, te la danno quella responsabilità e tu in quella responsabilità devi far sì che tutto funzioni in quella maniera. Se non funziona in quella maniera c'è qualcosa che non va, però c'è una motivazione che stavamo discutendo con Gianni. Le cose vanno fatte, vanno dette anche in una misura equa, non è che ti puoi va mano e non mano non sei, capito? Tutto lì, è come educazione soprattutto, perché nel lavoro l'educazione è molto importante, al di fuori del lavoro può essere anche uno stronzo, però nel lavoro l'educazione è molto importante, perché più educato sei, più riesci a prendere bene il personale e più il lavoro va bene e va avanti, giusto Gianni? Sì, ma il discorso non era questo, il discorso che io ho avuto con la mia collega, lei non comanda un campo, non è una commessa normale, non è che ha direttive per niente, solo che c'è molta gente che mi piace comandare anche se non c'è l'incarico di farlo. E capito? Io con la gente che ce la mando nel fanculo molto esplicitamente. Bravo! No, la noi è del personale, la conduzione è il cuore del lavoro. Se sbagli la conduzione sono voluti, quindi ci può essere anche uno che anziché avere il mio livello ne ha due superiori. Nella conduzione comando io, tu in questo momento non rappresenti niente, ma non che non sia un mio dirigente, che sia amministrativo, allora è un'altra cosa. Ma nel mio lavoro la conduzione la comando io, non c'è elettricista, non c'è manutentore, non c'è nessuno che a me mi deve dire quello che devo fare. come lo devo fare sul fattore? Sono io che devo chiamare a lui se vedo un'anomalia nell'impianto, sia a parte elettrica che a parte della manutenzione, allora sono io che chiamo e dico tu devi farmi questo subito, ma se tu vieni, molla tutto, vieni a fare questo subito immediatamente, faccio una cosa urgentissima. Quindi la conduzione nel mio lavoro è importantissima. Nel tuo è diverso, in quello di Eugenio è una parte organizzativa che chiaramente devi seguire in una certa maniera, in tutti i lavori ci sono le sue. Vai Eugenio. No, ha detto bravo, ma bravo non lo so, bravo è molto, chi è? Non ci interessano i giudizi degli altri. Se vuole entrare, ripeto, ribadisco, il canale aperto a tutti. Si chiacchiera, si discute, le opinioni di tutti sono sempre valide. Avanti già. Sono io. Ah, tu sì, allora girati le bibirite, due le ali, bravo sarai tu. E chi vuoi che sia, in barra mobile, sono l'unico pirla Sassari che ancora va in barra mobile, a parte Gianni. Vabbè, io sono sempre in macchina, quindi perché sei l'unico pirla? Ce ne sono tanti di pirla che non sanno manco guidare, tu almeno, a parte come adoperi la macchina, ma almeno già sai guidare, dai. Riprendi e fai girare per Gianni, dove sei? Sto uscendo da Ocean, adesso vado da Brcomende. Oh, è l'unico che va a mettere le coppiette per modulare, quello sì. Ehi Claudio, io mi riferivo a chi ha il baracchino, chi ha la radio in macchina, ormai il baracchino in macchina ce l'abbiamo solo, io, Gianni, vabbè Eugenio ce l'ha sul camper, ma gli altri non ne hanno baracchino. Perché gli altri le piace come si dice? Parlare da casa, capito? Così lo sentono di più le cazzate che dico. Vabbè, e qua stavo dicendo, vabbè dammi già, invece andare allo Spin a fare il peso, andai a dare Ushan, capito? E lui deve andare a Ushan. No, però poi l'ho messo in baracchino in macchina, Marco, sono stato il primo che l'ho messo dopo tanti anni, non ce l'aveva più nessuno in baracchino in macchina, il primo assassino. E poi l'ho messo Mattarino e poi via dicendo. Ma io l'ho messo proprio perché viaggiavo la sera e quando sapevo che la sera era parte in ruota e allora ho piazzato l'apparato per parlare, per farmi compagnia a Tommaso. No, perché già io quando ero aperto non ce l'avevo la radio in macchina, che radio che avevo? Sì, è sulla Sassua, no, va bene, sì, avevo un po' in piazza. Sì, ce l'avevi, poi che cosa? Uno me l'aveva detto per tutti i baracchini. Yes, yes, ce l'avevamo modificato quella macchina, ce l'avevo intorno ai 350-400 watt, ce l'avevo il B550, mi ho fatto tutto dal cofano, però, tutto con l'interruttore che si accendeva là davanti, tutto fatto veramente bene, è antenna che non va via, un mostro da quell'antenna. Ci l'ho preso e mi sentivo che c'è un monopattivo lì dalla piana di Proaghega, esce, quando chiamavo dicevi sempre tu, cosa, sempre mi rispondevate, scegliere impianto e va via, mi sa anche la lucina. Allora si sentiva bene, poi con la terra era buona, perché te l'avevo chiesto, no, oh, Pinocchetto me ne ha pigliato a Brugge, avevamo lo spuntino da Gigi, anche l'ultima c'è mia, lo tocca, no, no, l'ultima c'è mia, che l'ultima ne fa la giadrae, la giugiore con la giadrae, glielo date, ce l'ha piazzata, ce l'ha ancora, capito? Vabbè, io non ne avevo più messo qui, la Saxo, la Citroen era macchina da lavoro, l'avevo presa proprio per... c'avevo anche l'Audi e qui l'avevo fatto di piatto lì, Maria era blu o Marco, era blu e c'aveva l'antenna VHF piccolina, nera, a centrotetto. E davanti al posto dell'antenna della radio c'era l'antenna del baracchino nera con la molla di quelle proprio. Tanto quando mi vedevano i carabinieri non mi fermavano mai, no, mi salutavano sempre, saluto, guarda la macchina, guarda il finanza, guarda quella lì era. Eia. Comunque a dire il vero, anche Antonello Di Ossi l'ha parlato anche in macchina, ma lui non entra quasi mai. Ce l'ha anche Gianluca di Portotorce, ce l'ha anche Sandro Tigre, e ce l'è gente che ce l'ha tantissimo sbagliato. No, vabbè, Sandro non ne ha più. Sandro ce l'aveva nel furgone, capito? No, non penso ce l'abbia più, non so. E vabbè, come lo fate, l'ho fatto voi. Buona Sassari, però è sempre fuori. Anche questa settimana è sempre fuori, fuori Sassari, quindi non è a tempo di stare al baracchino. No, ma io proprio viaggiavo, partivo la mattina alle 5:30, 6:20, perché alle 6:30 dovevo essere a Perfuras. No, partivo da Bresci, mi parlavo con tutti i camionisti e mi diceva Gigi, dalla Piana di Campera mi sentiva Gigi quando ero sopra a Ploaghe, una cosa allucinante, quasi 400 watt erogava a Colignano, capito? Quasi 400 watt, 320, 330, ma minchia, un impianto favoloso, cioè volava 48 modificato che mi aveva dato Gigi, che praticamente poi ho dato a Giampaolo, Giampaolo ha venduto a Gianni Rischetto, sempre quello è. Quello c'ha già nel rischetto, quello che c'avevo io già. Ma tu non l'hai venduto a me, era quello che avevi portato a Chiaramonte a aggiustare perché l'avevano toccata, l'avevano aggiustata, te lo dico. Ne avevo due io della 48, uno che ho dato a tempo, io uno l'ho comprato da Gigi Vulcano e me lo sono ottenuto un bel tempo, un bel tempo. Poi c'era Giampaolo che stava cercando la 48 modificato, aveva Giampaolo Silvestro, l'avevo dato a lui a mettere nel motocarro, capito? E poi lui aveva dato a Gianni, Gianni Rischetto, quello che lavora da cos'è, da tavola. No, io quello che ho io è lo stesso di Vulcano, era un apparato veramente bello, già lo sai com'è. E poi non ho neanche degli apparati di Vulcano, ma per noi degli apparati modificati. No, il mio non ha mai avuto un difetto, mai, mai, mai, mai e poi mai, anche adesso ce l'ha detto Gianni Rischetto, lo sento io ogni tanto, esce una calmata sempre, no, io ce l'ho dentro la scatola da 48 già, anzi la scatola non viaggio più, la giro preso, dov'è? Comunque dentro la busta, dentro il nylon, dentro l'armadio, io l'avevo comprato da coso, da come si chiama, alla GBC, però è originale, ce l'ho in concessione quello. Volendo lo posso mandare da Piero Romacone e fammelo modificare, c'è un bel baracchino, ma non ne spendo assolutamente. Assolutamente, intanto non ne uso, in macchina non ne metto, a casa fa di troppo brutto, quindi va bene così. Avanti, genio, genio, il genio che si è andato a spostare il campo. Dove si è arrivato Marco? Marco morto, morto? Aspetta che c'ho l'aria, nel parcheggio di Riccoman, com'è il segnale? 9:10 sì, qua, 9:10, non bisogna prendere fascette, l'antrosolante, bisogna recuperare. Oh gatto, rispondi subito, mamma mia, ma sei proprio un pipistrello. Aspetta che sto facendo manovra, devo parcheggiarmi. Questa non ha l'autoparcheggio, magari. No, quella è autogarraggio, va. Attento, non te la prendano, chiudila bene, mi Marco, se non te la portino via le zingari, visto tutto quello che c'è dentro, eh. Eia, eia. Eia. Cos'è questo rumore? Ma sente la ventola, non mi dire no. Sì, no. Eia, si sente, mi ha amplificato il microfono. Vabbè, genio, a mania si è andato. Genio. Dai che sto scendendo, a dopo, ciao. Ciao, ciao Marco. Oh, comunque c'è caldo, in macchina c'è caldo. Io ho una camicia felpata, però d'ora in poi mi metto la camicia normale, non mi metto maglietta, non mi metto nulla. Io sto sudando qua, sto sudandomi. Ci sarebbe da tenere i vetri aperti. Sarà in calore, ma... Può darsi. Vabbè, sto scendendo, a dopo, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, sì, arriva bene anche qua. Sì. Arriva bene, arriva bene. Attento Valerio, ho capito, io so che tu ci sei, sai che ti vedo, e da qua, dalla mia montagna, non mi puoi scappare, ti vedo che sei io, questo computer, apri, chiudi le pagine, stai fermo, non tocchi se... Ah, cioè, te ce l'abbiamo tolto a mezzo di piedi, è andato a trovare la commessa del bricome, capito? A vedere se le fa mangiare il biscotto stanotte. E io ho detto di chiuderla bene, sia che la guardano gli zingari, gliela portano via, che sembra una macchina abbandonata. E io avrei, vai già. Sì, ciao Valerio. Tanto lo sappiamo che sei sempre con le orecchie di maiale. Ascoltate. Dai, buon pomeriggio, dai. Stavo scherzando. Sì. Ui. Sempre pieno di disascolti. No, lo sai che è mio, c'è il computer acceso, ma stavo uno però, l'altro c'è, ce ne ho due, uno lavora sulla parte delle radio e l'altro sulla rete. L'ho spento già, l'ho spento perché stavo nella mano di testa, non c'ho niente acceso, solo questo e basta. E le due di un po' finito, però sono a volume a zero, vedo solo i segnali se c'è qualcuno, capito? Basta. No, se no mi stavo sempre con questa testa girandomi a guardare il monitor, alla fine mi stanco, mi capito. E oggi sì, infatti l'ho immaginata che è andato a vedere qualcosa nel camper. E chi guida da qui oggi? Ma ce la fai col piede? E dove andate di bello? Va bene. Barumini dov'è? Provincia di Cagliari oggi. Barumini San Pietro, c'è quella, sì. Domani c'è il finale del carnevale, va tanto la TV. Bello. Si parte domani mattina e via. Ma è bello il campo di Eugenio, ho già i sugar. Se vedi intende tutti i radicali, non c'è anche la parte guida, tutto. Sedini in Alcantara, bellissimo. Già l'ho visto, ma era di fuori. L'altro sì che c'era un gatto dentro, l'ho visto tutto, però questo qui nuovo che ha preso. Uno spettacolo, enorme, bello. Ma poi la cabina di guida è favolosa, una vettura, tutto computerizzato, tutto radicale di noce, cruscotto, capito? Tutto. E poi sedili tutti in Alcantara. E quella è la versione lusso, mi stava dicendo, molto bella. Molto bella. Ma l'antenna TV oggi cos'è? Telescopica praticamente, quando accendi sollevi l'antenna, quella è a parabola, sono no, quelle piccoline, ma quella è già così, esce così. Questo è bellissimo, enorme. Enorme, bellissimo, molto molto bello. Gran bella macchina, gran bella macchina. Gappa. Già, sapete me. Ma c'è coincidione di fede, io chiudo a casa, posa, dove iniziamo a fermarci? Andiamo al Costa Smeralda, ok, andiamo al Costa Smeralda, facciamo due o tre giorni lì, via, poi di pochi. Bello per quello, non c'è niente da fare. Ma di pagare lui, se ne affitto a nessuno. Ma adesso non è più come prima, devi andare nei campi organizzati, che se non ti fai più di questi partiti. Sì, ma dico, per fare campeggio non si fanno campeggiare, se non vai in qualche struttura privata dove ci paga giornalmente. E prima lo facevano invece, quindi a Platanova avevano i tubetti, i pugnali distintivi con un camper, a Priva, ci passava la gente per levare quello che facevano, ma la bocca di... Non si può più fare così, no? Ma sto dicendo, una pentola di sorta, senza mettere né tenda né niente, capito? Un girente normale, senza bucane nuda. Ti dovrei la mano di baccheggiare, ma ci dentro, boh. Poi vuoi stare fermo lì, c'è una bella piattola che, insomma, e dormi lì, poi domani mattina torni a partire, vai in un'altra piattola vicino al mare. Così ti sto dicendo io, amico, cos'è il campeggio? Che campeggio? Le finestre le apro io, scusi, adesso ci muoio da Lugaccio, non metto pendalino, non metto piedini, non metto niente, capito? Mi uso l'interno, normale, sono parcheggiato, perché non le posso aprire le finestre del campo. Vabbè, se sono in una piattola di sorta, non so che mezzo carrera, no? Una piazzuola vicino al mare, non lo so, non mi posso aprire i finestrini laterali, entrare un po' d'aria, senza naturalmente mettere i piedini, senza mettere niente, collegare niente, nulla, scusi, parcheggiato sì, i finestrini lato guida, e allora andiamo bene lo stesso, c'è anche un ventilatore all'interno, e se lo piglia in gomma devo chiamare, già va bene lo stesso, sì, così già si può fare, non è un problema, no, io non, tu già? No, vedi da freddo, no, e di questo se ne sono fatto da freddo, ma diciamo che chi ha fatto il gara, chi ha fatto tanto, si è imparato di guai, c'era anche quello della Midland, ce n'erano tanti altri, dai, e poi mi dice, c'è tu ecco, ma marchiato, e poi essere educati, che ha avuto molto bisogno, se non Alfa Romeo, eccetera, eccetera, poi ci sono educati. Il tuo, la cabina cos'è? Ford o leggero? Praticamente il coso, la cabina guida, No, ecco, l'allestimento è là, però la cabina è Ducato, capito? Sai, mi sembrava più un Ford, invece Ducato, ma è molto bello già. C'era il 2008, vero? Non aspettare c'entra. Che se 3.000? 3.000 io gambero, ho detto 3.000 è quel camper, e se avessi avuto dire, se quasi camminato, un bel camminano come velocità, vabbè non puoi camminare molto, no, se non le prende tutto l'equipaggio, già tra me ci vengono i fantozzi. Ti ripiace di fare naturale. A seguire non so che cosa, non gli aguivano i piedi a tutto l'equipaggio, okay? Adesso mi hai rotto le palle, se te ne è andato a fanculo con tutti i canali che ci sono, a metterti nel canale di accette, adesso mi hai rotto le palle, non te ne sei accorto vicino a casa tua, Federico Marco, un antallometri, no, con Gianni. Chi è? Dillo a me. E non c'è bisogno di dirlo, sono i guai che parlano di te grossi. Allora, bravo, non te lo posso venire a radio, meglio le palle a me. Dove sei Marco? Sto uscendo da Bricoman. Oh, tutto è comprato, un altro giovante, fascette, tutto? Sì, tutto preso, anche la come si chiama? La stufa a pellet, ce l'ho ancora, no? No, avrei comprato il coso per la stufa a pellet. E dove te la metti la stufa a pellet? In chi sa vasca da bagno, vi vai. Sto scherzando, dai. Sono andato a vedere male, tutto. Oh, così è. Avanti già. E cosa hai visto di bello, ma? Tutto. Perché si sa mangiare, è tutto bello. E chi ha posto per fare? Perché c'ha dinero se ci vogliono a comprare lì, capito? È Marco, dinero. Quanti chilometri sono, Eugenia, a Barumi di San Pietro, là dove sei tu? 200, no? Più o meno, sì. A Barumi? No, domani mattina Marco deve andare a Barumi di San Pietro, capito? Comunque, a che ora parti, Eugenia, orientativamente? Voglio vedere sino dove ti sento, come l'altra volta. Ok, tanto è tutto 131, quindi no, non c'è problema. Avanti Marco, dove sei arrivato? Sei già fuori da Brico? Sì, sono sul piano di camion. Ho capito. Avanti già. Fila di laterale, adesso troverà difficoltà per il parcheggio. Mamma mia, adesso inizia a bestemmiare. Certo, lo sento come se fosse qua nel canale, questo canale. A tuo vicino? Fanno schifo, cazzo, per carità di Dio. Ma lo sta trasando qualcuno comunque, hai capito? È una cosa che mi dà un po' fastidio, perché noi non stiamo cercando nessuno, vengono a rompere le palle qua. Non capisco. E quando uno si incazza diventa cattivo. Dico, maleducato, capito? Ma che cazzo adesso c'è? Ma vai a parlare nel canale verde e girami le balle. HI. Oh, lo stanno traslando dal PMR al canale 10, capito? Poi dice che sono gli altri. Dammi così io ma te se le traslendi. Capito hai già? Capito? Stanno traslando a Giovanni al canale 10 e le fa vedere in PMR. Per carità di Dio. Quando è che l'ha finita di fare i bambini? Ma di compreso. Ho deciso di fare così, ma vai in picca, di magari te che. Ma se non mi disturbi a me, se no ti posso battere la giamba io, ma te lo posso battere davvero la giamba. Sia di persona che in radio te lo posso battere la giamba. Ma attento, non farmi incazzare, che giamba, sono incazzato un bel mio. Avanti Marco. Dighe ti mettiamo la museruola, mi, se no tu attacchi e mozzichi. No, io non ho aperto il muschio, sto cercando la vicino, voglio essere cercato. Tanto me lo faccio, infami, cazzo, miserabili come quelle. Passa via, dimmi qua lì, dimmi qua lì. Tu ridi perché sei solo lì, non ti devo far parlare nessuno. Non so se c'è un gruppetto un po' fuori da te che sta iniziando a scantonare, ma... L'importante è che non esagero, se no le taglio subito le ali, anziché tagliarle a Marco le taglio a loro subito immediatamente, di brutto però mi... Aspetta un attimino perché mi dà fastidio, voglio avvisare che stanno trattando Gio Maria nel canale 10. Sì, un grandissimo imbecille, perché queste cose non si fanno, capito? Alle persone grandi e alle persone che non ti stanno cercando. Animale che non sei altro. Deficiente, magari parli anche con loro. Miserabile, che ma razza di guscio, razza di guscio. Quello è lì che si sta facendo i fatti suoi, parlando per i fatti suoi, te lo devi trasare un canarese. Magari amico suoi, fa vedere alcunetti. Io non sento nulla qua. Segnale basso è, già ho già capito, individuato il sistema. Segnale basso è 7-8, è più o meno lo stesso segnale di Eugenio. Qua si sente come se fosse in questo canale. E anche qua, infatti io pensavo che era in questo canale, capito? Agito avviarsi, invece le stanno trasando dal PMR al canale 10, ma io non capisco perché devono fare queste cose, cioè a cosa serve? Cosa serve? No, io facciamo che posso canale A. Ogni traffico! Dove? Per mettersi al cavalcavia, un bel traffico c'è. E mi serve per questo. Via. E allora l'ha passato l'esame questo paracchino? Claudio, ti hanno trasportato anche a te adesso. Avanti in caccia, Claudio, mi. Ma sto trasendo a Gianni, dai, trasera anche a me. Come che non lo sappiamo chi sei, dai, trasera anche a me. Deficiente che non sei altro, asino, infame, miserabile. Ti ha già traslato. Aspetta, vanno traslando. Trasami, dai. Non parlo io, non parli anche tu. Anche me, crasla anche me, voglio essere traslato, voglio essere sentito ovunque. La voce calda della frequenza. No. Claudio, Gianni, a Claudio, come ti lo vedi lo trattari? Giochi non c'è per ragazzi vicini. Ma cosa serve? La si vuole rifare? Almeno che la domani non va manco una radio più. Si è finito. Ma insomma è tipo Torres o altre zone? Non lo so che zona è, non mi interessa saperlo. Io il nome non ne faccio, ma non sono tonto però, capito? Mi gioco 40 anni in radio. Sì, non vivo a secca, capito? Non tipo Gio Maria chiaro. Si vede niente stupido, capito? Si vede sono stupidi. Si vede sono stupidi proprio. Ma le compreso quella che traslenti. Ma adesso dimmi tu a cosa serve. Se quelli stanno parlando lì per i fatti suoi, tranquilli, senza disturbare nessuno, perché tu devi traslare nel canale 10? Che fastidio ti stanno dando, che fastidio ti stiamo dando. È sempre proprio le persone deficienti che fanno queste cose, capito? Sì, ma anche a me, o siamo registrati o siamo traslati. E adesso mi sta rompendo le palle. Sentite tutto bene. E appunto perché mi sta rompendo le balle, certo, cosa devo dire? Non sono cose da fare, quindi, ma a te se candy, ma a te cagandy proprio, ma vai e parla dove devi parlare, non rompere scatto alla gente che non ti sta cercando. Tu stai parlando di una frequenza e ti fanno ascoltare in un'altra, c'è un QSO per dire PMR lo stavano facendo ascoltare qua, a cosa serve? Stai disturbando e stai facendo una cosa infame. Esatto, tranquilli, c'è due persone parlando, tranquilli e serene, perché devi rompere le scatole e metterti a disturbare un canale che non capisco più, così iroso a chi non può entrare, è peggio per te, l'hai voluta tu la bicicletta, va a Pidara, riprendi già, vai, non è successo niente. E infatti, se non è che puoi funzionare, se mi rompo una palla, la mia familiare non fa vedere niente. Avrei voluto un po' quell'occasione, ma siamo qua tranquilli e sereni, ho già detto il canale è aperto a tutti, chi vuole entrare ma non me frega niente, io se c'entra gente che non parlo mi giuro bene ma vivo, non è un problema, pure lo ignoro, ma io non devo dire a nessuno dove deve andare e con chi deve parlare, ok? La concessione è di 40 canali, quindi non sono i miei, perciò però non, detto basta, fai parlare la gente tranquilla e serena, invece sempre ma te sei tu. Viene finiti che si yuki, adesso prende a cominciare, ma oh c'ho la penna, vai vai già, riprendi, dai, riprendiamo il questione, non è successo niente, a me mi hanno fatto io queste cose, perché la gente che non disturba non va disturbata. Ehi, Marco, dove sei arrivato? Marco, va a capigliare. Ci ha fermato a quel punto, non vedevo nulla, sempre lui, scusa. Ma uno dimmi tu, camminare in macchina, lì si può appannare la macchina e non vedere niente, cioè proprio un pipistrello. Invece di respirare con la bocca, respira col naso, capito? E c'è quella bocca che sembra un secchio per lavare per terra. Oppure apri il finestrino, Marco, un po', metti l'aria, non ci sono altri mezzi per non farla appannare, cioè. Non funzionano i finestrini davanti, c'è bruciato il bocca. No, sarà impossibile controllarlo. Non funzionava tutti e due. Se mi fate via un pisciamacchia, mi fate due pari via, c'è allucinante. Cos'è? Claudio, che qua io ho caldo, no, voglio aria fresca, sta nel vetro. Per dire che devo mettere sul vetro, e io che ho posto dentro. Qua, dal caldo. Ah, così è, per quello è. Per quello è, quindi vabbè, ti puoi aprire i finestri di dietro, far circolare un po' l'aria, fai qualcosa, non può camminare uno senza perdere la strada, boh, sei proprio un pipistrello, Duce. Oggi. Scusa se c'è tua madre, capito? Ma se c'è tua madre, se c'è tua moglie, aspetta di suonare a te. No, io vado a e adesso? Perché probabilmente non ho schiacciato bene il pulsante, perché sto parlando con il microfono da tavola. Marco! Mizzarino, mi piace. Oh, io sono in un bagno di sudore, oggi. Non ne posso più. Cioè, uscire queste codici, ho portato tutti i vetri dietro. Oh. Altrimenti ti guarda che sei più leggero di un posto, poi se c'è caldo per il più posto fa più gioco, ti poni la coperta a casa per uscire. Il vizio è lasciare la maglietta sotto e poi mettere queste camicie pesate, ormai c'è troppo caldo. Io mi metto, non mi metto nulla, mi metto una maglietta, una camicia estiva, Ma parte di cappa gamma. Se hai collegato il camper oppure si è accorto un po' più. Ah, ecco. No, perché di solito ho fatto una carovana, quindi poi fanno un barattino da un camper all'altro. E l'unione fa la porta. Già, sono al telefono, aspetta che poi ti dico. E ci stanno traslando al 525. Ecco, adesso fatto la luce allora. Aspetta che sono al telefono una persona che mi ha avvisato. No, perché allora siamo sul canale 10, 27075 e l'operatore doppio lunghe in questo momento sta parlando. Così almeno se traslano si capisce che ci hanno traslato. Dai. Ripetete sempre il canale e la frequenza ogni volta che parlano. Già, stanno cominciando a pesciare un po' fuori dal vaso, Ma noi, cioè, andiamo alle scopposte e li denunciamo subito, ma non ci può. Ma devi denunciare i gnocchi, finché non è la certezza, chi è che sta traslando? Denuncia contro i gnocchi, e se aspetti che ci muovono quelli lì, fa voi aspettare. Sì, ma non ti possono mettere, traslare in frequenza radioamatoriale, che qui facciamo cagare di lui, capito? Sono sotto casa, guarda, ti devo dire che oggi uscendo in macchina ho veramente sofferto. Eccomi qua, sono qua. E niente, mi ha telefonato un radioamatore, mi stavano traslando a 5.25, capito? Quindi non era solo in PMR il problema, ma è anche in VHF. Persone, per carità, non ho parole, vabbè, lasciamo perdere, riprendi già. Sì, ripetiamo sempre la frequenza, siamo sul canale 10, 27.075, l'operatore Gianni Lupiolù. Avanti, Eugenio. No, stiamo trattando a me in banda VHF, hai capito? Sono trattando. me in banda VHF, prima stavano trasando il PMR sul canale 10, adesso dal canale 10 mi hanno portato a 5,25 frequenza amatoriale. Io sono sempre qua nel canale 10, comunque continuo a fare quello che stai facendo, continuo a fare lo scemo, continuo a disturbare le persone che non ti stanno cagando, che non ti stanno cercando, ignorante che non sei altro, per carità di Dio. Va bene, Marco, cos'è che stavi dicendo poco fa che non ho capito? Che appunto bisogna sapere chi è, se no la denuncia si fa contro gli occhi. Bisognerebbe identificare la persona, ma sapete che si muova il furgoncino di Antonio Secco, già o Claudio. Ho visto, sono arrivato sotto casa e ti devo dire che oggi ho veramente, ma veramente sofferto in macchina. Oggi sono stato male in macchina, ho sofferto il caldo. Freddo non ce n'è, se devo dire la pura sincerità. Freddo non ce n'è assolutamente, però c'è umidità, c'è così. No, non c'è bisogno di promuovere il furgoncino. Oh, ma domani mattina mi avvicino alla postale, vedo tutte le posizioni di tutti questi pirati che ci sono in circolazione, così la finiscono, visto che non hanno capito che queste cose non si fanno. Non ne stiamo disturbando nessuno, io in particolare, perciò la facciamo finire una volta per sempre questo tran tran, così la finiscono di disturbare le cose che non devono fare, capito? Evidentemente non conoscono le leggi, la normativa, continuano con queste cose che ci hanno abusive, anche se a me non me ne frega niente, però vivi e lascia vivere. E allora, se loro hanno capito forse che no, non funziona così, glielo faccio capire una volta per sempre, così diamo tutte le posizioni, diamo tutti i posti dove ci sono questi VHF abusivi, almeno finisco. Va bene, va bene. E Ugeri, prendi? Mamma mia, vorrei la Nutella. No, non gliene dare Nutella, no, non gliene dare. Ah no, è anche tutta, che cosa, no? Di nuovo ci sei, c'ho tutto acceso. E c'ho la direttiva, stai attento, perché se sei veramente tu sei morto. Claudio, sono arrivato a casa, sto smontando tutto. Devo fare una antenna lunga, perché già ho un'antenna grande. Quindi mi saluto già da adesso, canale 10, modalità M. Ciao Gianni, ciao Claudio, saluta con piacere che mi ascolta, dai. Sentiamo domani, credo che ormai sentiamo domani, non so che vi siano. E quindi ritenetevi già salutati, dai. Ciao a tutti. Ciao Marco, dai, entra che ancora presto, dai. Che ore sono? Sono le 7:30. Cosa? Cosa? Che ore sono qua? 7:25, 19:25. Dai, entra da casa, Marco, aiuto. Il problema è che non devo levare questa roba. Volevo cercare qualcuno, perché sotto casa non ce n'è. Qua è una cosa incredibile, già è incredibile. C'è gente che lascia di ogni giorno le macchine parcheggiate. Sembra che qua non escano mai, capito? Non escano mai. E tu fa una cosa, ti cavi una, ti vuole una sguia. Ehi, spostala, cioè, tu lo puoi portare sotto al sedere, e spostati un po' di più, poi penso che altro che te, dai. Se non c'è parcheggio lì, che lo devi fare? Per forza devi cercare altro. Ehi, dai, dai, adesso volevo tutto, magari esce qualcuno in macchina, dai. Signori, buonasera, sono rientro, ritengo di salutarti. Ciao, ciao, ciao, domani. Ciao Marco, ciao, buona continuazione, dai. Non farti strada. Ehi, positivo. Scusa, se senti un po' bassotto, c'ho anche le altre radio accese. Ok, va bene, avanti oggi. Via. Via, ancora che lasciamo? Quasi 7:30 sono già, dai. Anche io scendo un po' più tardi. No, io sono salito alle 5, già alle 20. Sono salito alle 5, ho fatto un po' di tempo. E quindi anche lui mi rimane a salire la gara, la salita pure prima. Ieri già siamo andati tutta la sera. Ehi, ehi, oh, oh, oh, oh, oh, scende il Tavernario, invece erano stazionari, ce l'avevo su stazionari. Eugenio, Eugenio, allora sei contento, sei soddisfatto di questa parata? Sì, a quello del campo. No, adesso se devo subire la sotto, mi piccola il microfono, magari mi fa la grazia. Perché? Non hai sentito scemmare dal campo, Eugenio? Non mi stai sentendo? Sì. Ti dà lei, mi senti vabbè, comunque, in ogni caso... Se tu fosse per prova, no, l'ho subito che esce bene, ma se puoi uscire ancora più forte è meglio, se rimetti il DM1000 magari la radio è più potente. Ho detto che se poi metti il coso l'altro microfono, anche se esci bene adesso, magari è più potente la radio. Ora funzionava la GDC. Come ha certo che è sempre un casino per un magazzino, ma è sempre un casino di gruppo. Da quando hanno iniziato quello che lavorava, non si può più entrare. Ecco, capo, buonasera a tutti. Ciao, Budotter, ben sentito, buonasera. Ciao Gianni, ciao Genio. C'è anche Claudio. Gappa, ciao anche a Claudio. E io. Come è così serio? Già si ne vanno morti, no? Appena rientrato, sgocciato, già. 2 minuti di radio, e poi ce ne andiamo a mangiare la pappa, che anche domani ce lavora. Sempre diciamo questo, che ce lavori. Però poi di dico il fatto che siamo lavorati. Capo ragazzi. Vabbè. Lei si è parlato adesso, da poco. Sì, una mezz'oretta fa, 40 minuti fa. Sarai stanco allora, non è questione di catastrofe. Sì, già, gli hanno detto che bisogna arrivare qua per mezzo manzano. Un po' di stanchezza c'è là. Io mi accalessi la mattina, ma diciamo tra le 4 e mezza ancora qui. E poi il casino quando vai anche a dormire più tardi, capito? Aspetta che mi vuole mia figlia, riprendo Sì. Poi a fine giornata sto più stressato. Ciao Massimiliano, buonasera. È andato dalla figlia che lo stava chiamando. Ma l'altro chi è? L'altro dalla figlia che l'ha chiamato. Ma l'altro chi è che è entrato? Non lo so, ma io non sono interessato. Tu sembrava Marco, buh? No, Marco sta smontando tutto la macchina. È casino che lui non c'ha un posto macchina, capito? Se no con posto macchina tutto il resto è come ci dici di stare a cercare parcheggi, di posto, di andare avanti. Chi è avanti? Già io mi sono tuffato, ti parlano sopra, tu non riesci a comprendere più un accidente, no? Ho ripreso, eh? Sei tu Massimiliano? Sono io. Va bene, avanti. Poi io là, tutto a posto. Allora mia figlia voleva attaccarle la Wii. Vabbè, ho visto la foto della macchina che mi hai mandato. No, è positivo, là, positivo, io te l'ho dato ieri qua. Gappa gappa tutto Ruggero. Ma no, quale presa la sfida? No, l'ho usato. Allora, perché adesso mi sono trovato le prese occasioni, scusate. Io sarei dovessi prendere a prendere i chilometri di zero, le cose che usano loro, o che si matricolano e poi magari non le prendono, se le prendono a me. Prendeva di quello, si vedono. Beh, io ho preso questa macchinetta, c'ha 69.000 km. A me serve giusto andare a lavorare, poi la macchina è grande, per uscire già ce l'ho, capito? Ho preso una Toyota Aygo. Anche per il parcheggio, però lì va bene, città. Quando entrare in commissione, roba del genere, però... Sì, quella, quando devi entrare, te la metti sotto un braccio, e te la porti con voi. E io, ho capito, no. Perché cosa avete fatto? Bella mossa. Io non ci sono caduta, io ho aperto la LC e basta. Gappa gappa. Ma è l'impianto, è rimasto quello, oppure fa tutto nuovo. Gappa gappa. Stazionari, come si è messo adesso con quello? No, vabbè, se l'antenna è tratta così, però dipende la radio, se c'è qualcosina di vatto in più, magari vuole vedere in vista, là. Sì, a 10 vatt. Cosa già? Che quella c'ha 10 vatt. Vabbè, ma se l'antenna è tratta bene, anche con 10 vatt la stazionale dovrebbe essere buona. Sì, infatti. No, ma se c'è un altro cartellato dovrebbe andare bene così. Ma qui esce molto meno di prima e... Manca a fare la roba. Ehi, a Puglia, ci ha messo la radio nuova, vabbè, a Puglia. No, non è impossibile, se è omologata, sono 10 volte a casa. Sì, quello se sempre stare nella norma, dico, ecco, quello voglio dire. Ma da poi ormai non è più nessuno ti controlla, oggi ormai basta che non rompi le palle, avvicinati e cose così, sei tranquillo, e il caso di cose non gli pagato. Quello deve pagare perché è così, la tassa si paga, ma dico, se tu non rompi la scatola a nessuno, ti fa la chiacchierata così tranquilla, non ti rompe le palle a nessuno. No? Perché io sto rompendo le palle a qualcuno, eppure continuano a rompermele, o Massimiliano, mi trattano, mi fanno, capito? E ci sono solo io a Sassari, non ci sono gli altri, non sono sempre solo io. Anche se io non rompo le scatole a nessuno, stai pur certo che a me me le rompono sempre. E ma domani mattina mi faccio un sombrico via Cagliari, però così iniziamo a calare il poker, perché cosa è successo, qualcosa. Continuano a traslarmi in banda amatoriale, continuano a disturbarmi, continuano a farmene di tutti i colori, nonostante io sia qui che mi faccio i cacchi miei, non c'è niente da fare. Stasera mi hanno traslato a 5.25 e mi hanno ricevuto una telefonata e mi hanno avvisato. Cioè, capito, siete stronzate delle carogne, dei miserabili che ancora esistono purtroppo a Sassari, nonostante non disturbi a nessuno, continuano a disturbarti, capito? Quindi di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Se pensano di farmi abbandonare del tutto, hanno sbagliato proprio, capito? Non mangiamo, daremo lo bocca, riuscì, fatto piazza pulita dei liberati di bisogno. Tanto ancora roba da fare la gente. E vabbè, quelli ci saranno sempre, Claudia, purtroppo è così. Sì, ma cosa serve Massimiliano? Non serve a niente, capito? La parte amatoriale non si disturba, non si tocca. Hai qualcosa con me, persona, che ne dimmi le faccia, ma cioè, cosa serve andare a disturbare le bande amatoriali? Cioè, c'era Gio Maria con Bacchisio in PMR e mi li facevano ascoltare nel canale 10, ma perché? Cioè, cosa serve? Se le persone non ti stanno disturbando, perché devi andare a rompere le scatole? Cosa serve? Non serve a niente. Serve solo animare discussioni, a far sì che la gente si abbia parole, si azzuffi, capito? Perché poi perdi la strada. Siamo qua, restiamo facendo due chiacchiere, tranquilli e seri, o anche ascoltando in VHF un altro questio con le cuffie, cioè perché devo sentire la mia voce da un'altra parte, qui e là, ma perché? A cosa serve andare a rompere scatto alla gente che non sta facendo niente, sta scambiando due chiacchiere e pensando a noi. I bisofugiti ce ne vanno in PMR per non avere rotture di scatole, no, c'è sempre qualcuno che li tratta in 27, che li fa ascoltare, ma cosa servi? Non lo so, guarda, no, già l'ho visto io questa settimana, non ho acceso quasi niente, ma forse un mese prima, io aspetto i 2-3 mesi della propagazione, perché sono nel canale 45, poi già piglia il culo e vedi là. Cosa devi fare? Purtroppo ancora c'è questa gente qua. Vabbè, pazienza. Avanti già, succede, ripeto. Purtroppo, purtroppo c'è questa gente che si diverte a rompere e lascia di divertire. Ma tanto più di raccordo, peggiore, basta mullarle. No, ma non puoi non darle corda, non stare attento a queste cose, Massimiliano, è molto importante, cioè non si può traslare una persona, qua noi abbiamo un altro dialogo, capito, quindi ti può uscire la parolaccia, la fesseria, non va bene traslare in VHF, in UHF, sono bande amatoriali, non si fanno queste cose, cioè io continuo a dirlo, anche se lo dico con tranquillità, chiedendo la cortesia, chiedendo per favore di non fare queste cose, continuo a farlo, lo fanno sempre nei miei confronti, capito? Però siccome io ho 40 anni in radio, non sono stupido, quando uno ascolta con le antenne giuste, sai poi dov'è la posizione di chi ti sta disturbando. E allora quando poi lo castagni, no, perché gli hai già detto troppe volte, lo castagni, allora si lamenta, Claudio Sparviero, ma io dammi cosa ha fatto, guarda, mi hai dato, capito? Però nonostante gli avvisi poi sei costretto a fare così, perché non si può disturbare questi desideri, capito? Non va bene. Io ti do pienamente ragione, Claudio. Purtroppo, ti ripeto, gente così ce n'è tanta ancora. Non c'è Cristo a fare. Cappa Rogero positivo e tu Rogero, come dice Gianni Sigaretta. E tu dici, tutto a posto, per tomba. Tu vedi, zappola, veri, quel piede, sei sempre un po' zoppo, così. Scusa, Massimiliano, che mi ha mandato un altro messaggio. E così. E così, capito? E così, è così. E ho capito. Era un piccolo messaggio, collega, e così, non lo puoi, castagni, allora si lamenta. Vabbè, comunque, io ve lo richiedo per cortesia, non traslate, non traslate, lasciate la gente dove deve parlare, tranquilla, serena, che nessuno sta disturbando a nessuno. Ok, bravo, lo chiedo nuovamente per favore, non mi proteggete a farvi del male, perché poi se vi faccio del male, ve ne pentite malamente. Avanti, Gianni, ci sei. E tu palino lo tu gira di avanti. Ma non c'ero. Ah, allora a posto. Se non ha niente a far peccolare. Ehi, ehi, cappa, cappa. Quindi c'è meglio questa radio al camper oggi. Sì, beh, la radio nuova. A proposito, già mi sono dimenticato, la tua l'ho mandata da un amico, da un radiotecnico, cioè almeno la strumentazione per poter vedere quali sono i streamer spostati, diciamo, toccare quello che necessita toccare per non stare a fare il pasticcione. Io non mi faccio di queste cose, quindi ho visto come era la mia e l'ho richiusa e gliel'ho data un amico che forse Gavino lo conosce, mio Massimiliano, il collega di Gavino, non è Vittorio, un altro che è qua in via Umana, capito? Che abita nel mio palazzo, là, fianco a me. E può portarsi, non lo so. Non lo sacci. Dai, facciamo così, adesso ci mettiamo un bel lineare, quattro finali lì dentro. Sto scherzando. No, ma glielo ho detto anche io, ma non c'è bisogno di mettere niente di grosso, basta mettere anche qualcosa di piccolino, giusto per dare la possibilità di avere qualcosa in più, no? È praticamente il contrario, ma va bene, guarda, dal viale di casa sua, qua arriva Santiago 7, con una radio bellissima, chiara, pulita, è partito da sotto casa, quando abbiamo finito tutto il lavoro, perché la parte dell'antenna è a posto, l'hai fatta tu, sempre Santiago 9, sino all'ingresso del vialetto di casa sua, sempre Santiago 9. Buono, va bene. Linearetto tipo 747, giusto, capita, se lontano, un aiutino, capito? No, metti lì sotto, non affatto. E gli ero letto io, uno di quelli, ho una cinquantina di batte, capito? Giusto per aiutarlo un pochino, che non ti distrugga la batteria, non ti dia fastidio all'impianto del camper. Una cosettina del genere, no? E si è a posto. Tutto ok, capito? Va bene, quindi Gianni, stai mangiando? Che sugar, quasi le 8 meno 10 sono, minchia, dici che mi preparo io. Esatto, mi saluto. No, non era proprio un po' di mangiare, un pezzettino di pane, non faccio tanto mangiare. Vabbè, dai, ci sentiamo, io devo portare il camino. Ciao Massimiliano, ciao Eugenio, ciao Claudio, ciao Marco, se ci sia l'ascolto, e ti ascolto. Ciao, buona serata. Ciao Claudio, ma Claudio. Ciao Gianni, buona serata e buona continuazione, avanti oggi. Ciao Gianni, ci sentiamo, dai. Ok. Io faccio un altro passaggio e poi mi preparo, dai. Vi ascolto, intanto mi preparo così, mi sistemo anche il cane. Sono alle 8 meno 10. Va bene? Va bene, andate a portare il cane. E io già rimane qua, il mio già bussa quando vuole uscire. E lui c'ha tutto il sistema alberghiero a posto, io purtroppo volevo portare nel giardino, capito? Ho capito, no, ci butto un gattetere io. Ah, il gattetere è buccia, vabbè, quando è piena la vaschetta l'hai di più da però. Se no tra bocca e tutto, non ti riempire il buccio, quindi, guarda, sul travaglio, no, ma Filippo già mantiene, poverino, però adesso l'ho portato adesso oggi, dai. Ok, continuate, io sono qua che mi preparo, dai. Va bene, cappa, avanti. metterci. Lo so, l'unica cosa che nel campo non lo puoi mettere. Cioè, lo puoi mettere, però deve cambiare un po' di cose in quel campo. Allora, la prima cosa da cambiare è la batteria, che è quella che c'è, non basta. Alternatore e lavatore. E oggi non hai mai visto delle ali da un kilowatt e due, paghi su nuovi dibussi. Si vede che sono Giovanni originali da Sciuffa. No, manteneti. E mano una trascrivania mia, oggi. Ah, vai, 747 lì, ti da 70, 80 volte, 90. La luglia, piccolino, quando ti servono accendi, quando ti servono ce l'hai lì. E cosa vuoi te la? Vai, e fatti un giro col camper, vai. Come tarato oggi? Ma già tarato? Ma non te lo metti, cosa devi fare? Già fate tutto edo. Devi tarare l'antenna non lineare, che non abbia stazionaria, tutto lì. Siamo con 50, 70 watt, 80, cosa vuoi tarare? Da tarare quello che c'ha Giovannino, quello che c'ha cosa, si chiama Costanzo. Lascia occupare. Ma guarda, quello che c'è nel camion, chi è che vuole entrare? Aspetta, ma chi è che vuole entrare? Sei basso il radio, chi è? Non stai uscendo, tocca il microfono, chi è? Qua è Santiago 9, però non c'è il radio. Sì, è qua, 9:20, abbondante, ma non c'è il radio. Tocca il microfono, Elio del Vesce. Adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mamma mia, raga, sempre tu c'è un KTMC60, raga. Dalla a me, che te lo faccio funzionare io. Ciao, Elio. Buonasera, ben ascoltati. Non lo so, se devi guardare il sacco cappello, devi dargli una controllatina, no? Sai, anche il mio faceva così, quello del 780, cioè che adesso va bene, il 790. E praticamente, questo falso contatto non si capiva dove, non si capisce dove arriva. No, tutto aperto sotto. E quel pulsantino che c'è, quel contattore che c'è della parte dell'amplificazione, l'ho lasciato aperto e l'ho sfruttato tutto sopra lo spray per i contatti, però quello non olioso, quello in secco, diciamo, e l'ho lasciato stare aperto. Poi l'ho richiuso, non l'ha più fatto, non l'ha più fatto. E infatti ho dato una spezzatina di cosa, ce l'ho. Perché questo non lo sto usando mai, se non lo fa radio fisso, capito? L'altro lo sto usando al TS2000, sto a 2060, quello lo uso più spesso. Questo qua magari è sempre fermo e bisogna andare lì, capito? Comunque per la scuola di tutti, credo più che una cosa fatta. Dai, riprendo io che mi devo allontanare dalla radio, che ero a mia moglie. Saluto Elio Piuma che è appena entrato, ciao Claudio, ciao Genio e tutti i vari ascoltori, dai, io mi allontano. Buona serata a tutti e alle prossime, dai, ciao ciao. Elio, tardi sei entrato, sono le 8, io mi stavo preparando per andare a portare a figlio. Anche tu c'hai l'habitat per il cane, io ancora no, devo aspettare. Quindi mi devo allontanare, dai. C'è Eugenio, non so se lo senti, se vuoi rimanere te lascio in compagnia con lui, se no ci sentiamo tra 10-15 minuti, ok? Ero qua l'ascolto, mi stavo ascoltando, mi stavo facendo una sollettura, ho cambiato un cavo, ho cambiato il cavo della 510, ho messo la canile, altri 40 metri di cavo, adesso mi stavo provando, funziona benissimo, ho ricoperato 6 dB di guadagno, niente ne sai. 6 dB su questa banda? No, sulla banda V1, sul 510, che c'è sul taliccio. Ah, Camilla, buon cavo. Figura di Dio, c'avevo il 213 tutto magnato dai giorni, nel senso proprio vecchio, e ho messo la discesa unica a Camille e poi praticamente anche la Camille qua nella 27, perché il cavi non ne avevo più, erano completamente giù, proprio cotti al sole, dai, non servivano più. Va bene, no, Elio, se ci sei in ascolto ti chiamo dopo, vado a portare il cane, ok? Ciao anche a te oggi, ci sentiamo dopo, se rientri, se no alle prossimine, ciao! No, non c'è andare, dai! No, ti lascio in compagnia di Marco, se mi fai due chiacchiere, Elio. Dai, fai compagnia 10 minuti a Elio, così si trattiene, io vado a portare il cane, dai, se no faccio tardi, a dopo. Elio, per la compagnia mi sta lasciando con Marco. Ciao Marco! No, comunque, aspetta, Comunque la mia guarda sto scherzando, c'è di B. Cioè io non riuscivo a collegare il ponte di Aristano da qua, da quella 510, solo con la direttiva. È cambiato lì. Questo è il coso di Oristano, il ripetitore. Cioè io ce l'ho su 275H la direttiva a polarizzazione verticale, capito? L'ho girata da poco, la polarizzazione orizzontale non mi faceva niente, quindi non mi andava a creare, non ci va, quindi non ho messo la polarizzazione orizzontale, ho visto che mi arrivavo via tranquillamente adesso, quindi non c'è problema. Dai, al limite dopo facciamo qualche prova, fammi andare a portare il cane, se no se la fa addosso. Vai Marco, c'è anche Eugenio comunque. Ma il cane deve essere già uscito. Ciao Eugenio, ben ascoltato, ciò che avete sempre. Io sento tutti, da qua, sempre più. Ben ascoltato, ed è più bella questa parte. Sì, no, io quelle antenne lì che sta dicendo Claudio, no, c'ho i motori che me le girano. Ci sono i due motori che mi fanno sia verticale che orizzontale. Riprendi Marcos. Ehi, Aidio, ben sentito. Io sono, ciao Claudio, ciao Eugenio. Sentiamo domani in migliori condizioni. Poi, guarda, sono uscito in macchina, mi ha veramente stremato uscire in macchina. Perché ci sono i vetri di davanti che sono bloccati, no? Si è bruciato il contatto elettrico. Caspita, siccome avevo caldo, ero accaldato, mi mettevo l'aria fresca. Però respirando si appannava tutto il vetro di davanti, tant'è che non vedevo più. Allora metto l'aria calda per spinare, stavo morendo di caldo, cioè ho sofferto il caldo io, ero in un bagno di sudore io. Guarda, purtroppo questi vetri vanno aggiustati perché ho visto uscire proprio il fumo dal contatto che apre i vetri. Ho fatto in tempo a sfasciare proprio il connettore, se no pigliava pure il fuoco la macchina. E mi ha stremato, guarda. Il mio errore è che, siccome sono soggetto a infreddature, anziché mettere una camicia normale sotto la giacca di tipo estivo, quelle sottili, uso una maglietta e una camicia felpata. Ma questa camicia felpata fa troppo caldo, è estenuante, guarda. Oggi proprio ero a dito nel sedere, tornando dalla macchina. Proprio mi ha fatto perdere sali minerali, guarda. Adesso non mi frega più. Camicia, non me ne frega se mi do il raffreddore. Preferisco il raffreddore che soffrire il caldo in macchina, guarda. Poi questi vetri davanti vanno aggiustati, perché poi abbiamo la revisione a giugno e quindi bisogna cambiare tutto il pezzo che è andato in corto. Poi mi sono stancato anche sia a piazzare il baracchino e sia a togliere il baracchino, perché io sto a metti e leva, no? Siccome c'era un baracchino di cacca fisso e oggi volevo usare un baracchino un po' migliore, mi sono già accaldato piazzando tutto, mi sono accaldato durante il viaggio, mi sono accaldato a togliere tutto, guarda, mai più, mai più. Ecco perché io me ne voglio uscire molto, per restare bello al fresco. Sì, ok, c'è questo microfono, sono ricancato qua, non c'è più spazio anche per mettere la tastiera. Stavo dicendo, sì, no, caldo, oggi lo stesso anch'io, quindi lo so benissimo. Sono andato a ritirare il caldo, l'ho usato, l'ho ordinato. Avevo in maglietta, ma sapevo, in maglietta non c'era niente, colpì nulla, e c'avevo caldo. Sì, sì, è vero, è una giornata fantastica, domani sarà un po' più tutta. Domenica a poveri, e poi mi dice che c'era piovere, ci passano le temperature. Vabbè, comunque, va bene così, si va anche andare avanti. Arriva la prima della foto. Eugenio, ciao, ben ascoltato, mi pare che stia facendo quasi sì, e non so se sia la cosa più bella. Va bene Marco, dai, riprendi, che io controllo un po' di porto dove c'è arrivato qualcosa. Ma non è questo. Ehi, Elio, dai, c'è anche Natalino qua, Natalino Alfa 1, non so se lo senti. Natalino, e beh, dimmi due parole. Ehi, adesso saranno, fra un po' facciamo 3 mesi, mica dovevi piazzare l'antenna sopra. Ui, guarda. Poi quando quando ci si mette di mezzo la politica è anche peggio. Vabbè Natali, dai, già verrà il giorno che piaci tutto, dai. Un paio di sudore, proprio viaggiato male, cioè, avevo proprio fame d'aria, perché come te con l'aria fredda si appannava il vetro, ma appannato di brutto, mi fanno vedere quello che c'avevo davanti, a parte che quel vetro è tutto zozzo dentro, lo devo pulire col vetrile, quello per pulire i vetri. Ho sentito parlare di spray per vetri antiappannanti, cioè tu lo spruzzi sul vetro, lo passi con lo straccio e fa una pellicola che evita l'antiappannamento. Guarda, se c'è me lo compro. Beh, vedo che sto parlando da solo, Natali, dai. Ciao Elio, ci sentiamo. Sentiamo le prossime, dai, adesso vado un po' a sbollire e poi devo anche pranzare. Non cenare, pranzare. Ciao Natalino, sei all'ascolto, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao. Marco, io questa cosa la chiamo Natalino, perché io la Natalino non la sento, capito? Quindi non vorrei, non sentirei detto perché questa volta stai rispondendo lui. E quindi per non scacciarlo non ti ho risposto. Scusa, non lo sento. No, ma lo sento io, solo che non risponde, quindi dai. Sono tutto sudato, devo farmi una doccia, dai, mi devo cambiare il tutto. Prima che l'acqua diminuisca che qua manca l'acqua la notte, dai, vado a risolvere, dai. Ci sentiamo quando capita, domani, dopodomani, dai, ieri. Ciao, buonanotte, dai, sono troppo sudato, dai, mi devo fare una doccia. Ciao a tutti. Ciao Elio, c'è un disturbo elettrico qua in zona che è, caspita, forte anche. Ok, ciao, buona serata. Tutti a riparo. Marco. Ehi, vabbè. Ciao Natali, buonasera. Tutta la sera che è caldato, boh. Pianale qualche puntura, falle qualche puntura per questo pipistrello. Ho sentito io Natalino, c'è l'antenna interna. Cosa hai detto Natalino? Boh, è tutta la sera sto pipistrello, è entrato in calore, cosa vuoi ti dica? Dobbiamo stare attenti. Boh. È un casino. No, io sono andato a portare il piano. Sono entrato adesso, aspetta, mi cambio. Oh Gianfranco, ti ho sentito io, mi stavo cambiando. Brava, ok. Ehi, fatte. Se non vi posso seguire, non mi seguo, che sono qua. Va bene, Natali. Ehi, agarodì. Eri in ascolto poco fa? Lascio, ho le tue scatole. Vabbè. Vabbè, già te la sistemerà prima o poi, se vuoi ti dico. Non lo so. Vabbè. E infatti, quando ci sarà il tempo per farlo, si farà, tanto è inizio il tempo buono, quindi non ci saranno problemi. Ciao Natali, alle prossimine, dai, ci sentiamo, tante cose belle, buona cena. Marco, la luce davvero ti stai facendo, guarda che prendi freddo, mi tappati. Abbiamo fatto vedere la luce. Si sta passando l'acqua un po'. Non so se scende molto l'acqua qua. Diminuisce molto il livello dell'acqua. Gira, me la faccio domani mattina. Adesso mi passo un po' di acqua di colonia, un po' cotone, e me la faccio di mattina. Si fa, scende molto la pressione di sera, poi di notte anche di più, dai. Vabbè, pazienza. Sentito, me l'hai sembrato di sentire la tua voce, ma magari è tornato l'unità. Sì, guarda, oggi proprio in macchina è stata una tortura. Poi questi vetri bloccati, li devo soltanto, li devo fare aggiustare. sentire quel... la via di quelle dell'auto alla mano che si ammonte, che è molto cordiale. Me l'ha già detto, chi è? Come? Che viene? Mutato, mutato quello, mutato. Praticamente dove c'è la questura, dove c'è la questura all'angolo, dove c'è quella casa che stava, che hanno fatto andare via tutti perché stava sprofondando quel palazzo. Aspetta, la via, me l'avevi detta la via, Pietro Mica, no? Vabbè, chiedo lì in giro, dai, dove è mutato il tratto. Mi avevi detto che era molto cordiale, come quello in via Capelluccino che purtroppo è morto. Te la monto con la mano, mica. Sì, lasciala già te lo pozzio. Ah, ci organizziamo, molto la mano. Noi come dici, col calcio, deve prendere appuntamento, ti danno le idee anche, no? Col camice bianco arrivano certi, no? A me piacciono quelli alla mano, capito? E va bene, quindi io andrò da quello. Sì, hai sentito una cosa, via Montella, sì, all'inizio però, all'inizio no, dai, lo prendi da via Pasquale praticamente, dall'ingresso di via Pasquale, 50 metri, e si è arrivato, già lo vedi comunque, poi c'è quello ferracolo, c'è una ferramenta attaccata. Sì. Ok, dai. Ok, dai, via Montella comunque. Se no qua arriva l'estate, se non puoi aprire i vetri davanti con le idee elettrici. Mamma mia. Vabbè. E sono ancora a tremoloni proprio. Fame d'aria mi sta venendo, fame d'aria, come la te nel camper, ti ricordi che proprio, hai detto mi sta venendo proprio la fame, e così ero io immagino. Per forza, facevo giù un botto, stavamo facendo quel lavoro al baracchino, c'era un caldo a morire. Ma dimmi una cosa, ma tutti e due i motorini, sia il destro che il sinistro del retro non funzionano, quindi può essere un fusibile. No, allora, l'altro aveva i contatti consumati, il mio, ti spiego, quello di destra comanda solo destra, quello di sinistra, cioè quello di guidatore, comanda tutti e due, però sempre che si è ordinato questo uscire proprio il fumo dal contatto elettrico. Ho fatto il tempo a levare l'unica pinte e ho staccato proprio il connettore, c'è un connettore con tanti fili, si è proprio bruciato, mi è andato il corpo. Meno male che l'ha fatto quando c'ero io, se no filiamo tutta la macchina. Però io penso che per via del cortocircuito sia anche bruciato il fusibile, quindi bisogna prendere proprio il pezzo giusto, il pezzo specifico ordinato alla Opel, e poi lui, l'elettrauto, controllerà l'integrità dei cavi e se serve il fusibile anche, capito? Controllerà perché è partito il corto, lui a fare quello spinotto, quel connettore non ci vuole niente, già troppo a lui, ha dei figli e però poi lo fa nuovo, cioè bravo, sono dei connettori maschio e femmina normali, quelli in plastica, capito? Non è un problema, però si sia andato in corto l'interruttore anche, e quindi abbia fatto questa cosa, bisogna vedere, ma è comunque già molto bravo, non è super bello. Ecco, la gamba di Catalocchino era molto brava, non lo so, però esoletichi, è successo questa cosa, mi sono andato lì, una giornata di riposo, hai detto, una vita lavorando, quella era, una giornata di riposo, sono andato al mare, è caduto, si è avuto un capo allo scoglio ed è morto, cioè, è proprio una cosa allucinante, ma poi morire i garoni, no? Le persone brave muoiono. Esatto. Uff. E mamma mi ha preparato, aveva lavato della roba più estiva, perché questi pantaloni sono leggermente freppati dentro, no? Non so se da usciando, forse il carro, mi sudano le palle, vedo tra noi, mi sudano le palle. Non ne voglio più roba freppata, voglio roba festiva. Poi, se ho freddo, mi metto la giacca. Però cavolo, non devo andare da Ushan a bere caldo, a salire su un camper a bere caldo. Capito? Voglio stare leggero, l'uomo non mi butti più, non mi butti più, guarda. Quindi cambio viso domani. Ci ho scelto vari pantaloni e varie camicie lavate, capito? Pronto a luce. Guarda. Comunque, per curiosità, mi vorrei controllare la saturazione dell'aria, dell'ossigeno. Io ogni tanto ho fame d'aria, soprattutto col caldo. Quando ho caldo viene fame d'aria, come se non avessi un'ossigenazione perfetta. E voglio fare il controllo, dai. No, non devo dire. Comunque, baci è... faglielo vedere, perché se non ti fa fare l'aria condizionata non ne ha, non lo so, io ce l'ho anche una macchina piccola l'aria condizionata, l'ho cercata proprio apposta con tutti gli opzionati, perché l'estate se non si muore a viaggiare senza l'aria condizionata. Però se tu non ce l'hai o che non ti funziona, fatti fare questi lavori, sono molto importanti per l'estate, cioè non puoi camminare senza l'aria condizionata con i finestrini chiusi, ti troviamo morto, caro pipistrello. Anzi, meno male che funziona l'aria condizionata, meno male. Però i vetri devono funzionare anche perché quando la madre è in visione, secondo me loro controllano anche l'integrità dell'impianto elettrico. Se vedono i vetri chiusi, dicono già, questo non funziona. Insomma, la macchina deve essere a posto quando va in visione. E dobbiamo vedere anche le gomme se sono troppo consumate. Voglio la macchina, cioè, non è che va sbagassata e quindi chiudono un occhio, la macchina è sempre a posto quando va di bisogno. Poi che siano di bocca buona è un problema loro, capito? Però la macchina deve essere a posto. Vai Natalino, riprendi un po', dicevo poco fa, che Natalino, no, qualcuno gli doveva piazzare l'antenna. E stanno passando lì, non vorrei che l'antenna non gliela piaccia perché Natalino parla con noi. Capito, c'entra di mezzo anche la politica, no, siccome qua ormai è tutto fazioni, già lo sa. Guarda Marco, ti chiedo la gentilezza, io in questo... ho aperto la finestra, c'è l'ora, no. Porta aperta c'è corrente, ma anche qui c'è la porta. Quanto vicino io a questi discorsi non ci voglio entrare più, Marco, non mi interessa di chi fa, di chi non fa, di chi parla, di chi non parla. Io domani mattina vado al Carol Poker. Basta, mi sono stufato di questa gente che continua a disturbare così, senza motivazione, senza niente. Siamo due gatti, stiamo parlando qua, tranquilli. Capito? E vabbè, l'ho detto anche prima, quando tu non c'eri. Siccome ci sono attriti, siccome Natale non parla con lui, allora niente antenna piazzata, capito? È un pensiero che passa con me e poi non significa niente, magari non vuol dire niente, ma c'è un pensiero che passa con la testa. Chiuso il discorso, riprendi pure Natalino. E beh, sei andato a sparare da poco. Basta, è inutile dare la delega ad altre cose, metti le telecamere, metti la centralina collegata alla motorizzazione, e non gli basta nemmeno quello. Ascolta, allora si fa semplice, direttamente alla motorizzazione a fare le revisioni, così non ci sono trucchi, non ci sono inganni, cazzo, vabbè, scusatemi, ma con questi controlli hanno rotto le palle. Thank you. tutto fatto, la multa è già fatta, capito? Ah, non lo so, le palle però, perché quelli sono sempre sui cubanti. Passi a pisciare, una volta mi ha detto, ma guardi che noi non siamo tenuti a fischiare, noi fischiamo per favorire la persona a spostare la macchina, se no non siamo nemmeno tenuti a fischiare, capito? Devo dire, allora di cercarsene pure il fischietto, ma non fa, non sono così maleducato. Quello gli ho detto, me la sono tolta la soddisfazione. Quello ci è rimasto male e poi ha risposto, ma di certo non mi diceva ben sa chi sono io, no, non l'ha detto, c'è rimasto male la risposta. La soddisfazione me la sono tolta. Sì, si fanno aver risponduto. Se rispondi ad Antonio, tu a quello che conosci Antonio, ti piglia già per capo, ti piglia. Riferisci? A quello denuncio per aggressione. Per far cosa? Non esiste l'aggressione da noi. Per cosa, capito? E io voglio così inizia di notiarlo, avanti lì. Non lo so se riesci a denunciarlo ad Antonio, a quello che hai detto tu, a chi di poi risale la bocca subito, a Marco. Sì, vabbè, dai, lasciamo stare, che loro devono fare la bravi, sennò anche loro sono responsabili di quello che fanno. Non è che vai lì e ti metti a picchiare per tuo nuovo. Di altro qualcosa, non è nemmeno un'offesa quella, se lo offendi proprio a parolaccio, quello è un'offesa, quello era diciamo un augurio, capito, un bel augurio, che gli andasse in chemioterapia i soldi che ho speso io, capito, per la multa. È grosso mio Marco, mamma mia quanto è grosso, grosso e alto, a 2 metri Antonio, già è quello lì sì, che non c'ha capelli, è alto e grosso, è sempre in divisa con i filari, perché prima era motociclista sorso, adesso è praticamente, mi pare che sia il pian piano di tutti, non so, comunque già lo so più. Vabbè però Marco, voglio vuol dire che loro fanno il loro lavoro. Per il resto ben venga un servizio ben curato, sa, se c'è gente molto deficiente, la macchina non si manda una palla senza assicurazione, te la conservi in garage e così non stai né occupando solo pubblico né niente, capito? Tutto lì, bisogna stare molto attenti con la macchina oggi, perché le leggi sono cambiate, anche nei 15 giorni dell'assicurazione scaduta. Io mi sono informato alla mia assicurazione, cioè per noi non c'è nessun problema, se succede qualcosa disgraziatamente che l'assicurazione nei 15 giorni noi copriamo, perché non so dovrei coprire, però bisogna stare attenti sia alla stradale che ai carabinieri, non tanto ai vigili urbani, perché se vogliono ti multano perché tu sei senza assicurazione per loro. La multa era per non aver esposto il tagliando, cioè si è coperto però tagliando è sparito, cioè ma vale sempre la copertura di 15 giorni dalla scadenza, sì. Sì, per l'assicurazione vale, non ci sono problemi, quello ti stavo dicendo, loro coprono perché è loro dovere coprire un loro assicurato, un loro cliente, nei 15 giorni, però volendo, se ti fermano, tu sei, hai già superato 3, 4, 5, 6 giorni, anche 10 giorni, che l'assicurazione è scaduta, però sei per l'assicurazione entro i 15, ti possono multare perché tu sei senza assicurazione per loro, sia per i carabinieri che per la stradale. Sì. Purtroppo bisogna sempre stare attenti a tutto. Per esempio, scadeva il 2, ho detto andiamo oggi o ieri. Ehi no, ci andiamo domani, dopodomani, adesso dobbiamo andare lunedì, è scaduto il 2, capito? Adesso magari ti fermano i carabinieri in città, o la stradale, se vai a Platamona per dire, sono storie sempre. Funziona così Marco, funziona così, se chiude con la finestra, funziona così purtroppo, perché il problema è che tu sei scoperto di assicurazione, però... Sì, è quello il discorso, infatti ho detto paghiamola prima, no, lei dove va? Fatevi far cazzare, guarda. Adesso per dire, se fa bel tempo domenica, magari andare a Platamona, anche se qui non andiamo perché non ne ha voglia, magari trovi la patrulla stradale, controllo i documenti, ma questa tutte e due, molta, molta. E voglio spiegare che si è coperto per 12 giorni. Sempre devi discutere. Però comunque a me le divise sono sempre state sulle balle, sempre. Ah, non rispondi? Io sì, sono qua. Sì, perché ce ne escono con certe stronzate, cercano sempre il motivo o per fare incazzare le persone, per fare reagire, per fare buriare, non lo so. Come a Portottola si diceva una gialla che l'antenna era troppo lunga, del baracchino, che era troppo lunga, ma troppo lunga rispetto a cosa? Cioè, correlata a cosa è troppo lunga? Lo fanno per fare nervosire le persone o per farle rispondere male, per attaccarsi, per rompere le palle alla gente, capito? Ma sei arrabbiato, sì. Cosa? Claudio, ma da solo sto parlando? No, c'è Antonello, voce di Antonello. Sempre arrabbiato questo Marco Rezzo. Beh, se parlate in due sento a lui, Marco, ti capisco a te. Non è arrabbiato, arrabbiato il cane, lui sarà di ratto. È così, Marco, è così, anche se vai a protestare, per loro è così, capito? La tua assicurazione ti copre. E lo dico, a noi non ce ne frega niente. Lì sta girando senza assicurazione. Ehi, ma non hai capito quello che ho detto dopo? Che certe volte trovano qualcosa a cui attaccarci per fare nervosire la gente, capito? Tipo a Gianni che gli hanno detto che l'antenna, la Turbo 2001, secondo loro era troppo lunga, non si è capito in base a cosa o relativamente a cosa. Quella è una grandissima stronzata quello che hanno detto a Gianni, perché l'antenna, che cosa influisce l'antenna, non lo so. Avanti Antonio, buonasera. Buonasera a tutti, sì. Bene, scusi. Come va? Io bene, molto bene. Molto bene. Marco, credo lo stesso. Non so, c'è anche Natalino. Sì, sono tutti a Natalino che è a Marco. Allora Marco. Beh, oggi sono polemico, dai. Un giorno ci vediamo, Antonello, in questi giorni. Mamma ha comprato un regalino per Tommy, l'ossicino da spolpare. Già, va bene, così mi fai contento. Fammelo tranquillo. Io ho avuto un regalino per Natale invece. Figurati tu. Il regalo, cioè? Cioè devo restituire tutto ciò che ho dato, capito? L'accompagnamento a Sacesta lo devo restituire all'Inps, quindi un anno e mezzo sono 5.000 euro in contanti devo restituire, perché l'assistenza sociale non ha in pratica inviato un foglio, poi in pratica mi ha fatto e non l'ha ricoverato, hai capito? A posto che in pratica di dargli la pensione normale, loro si hanno preso l'accompagnamento 600 euro, perché sono furbi, no? E qui adesso mi è arrivato il foglio all'Inps e devo restituirli a 50 euro al mese. Ma se l'errore è stato di qualcun altro, perché dovete pagare voi? Perché dovete restituirli? Chi è che non ha dato il foglio? L'ospedale? Qualche ufficio? Cioè, chi è che doveva portare o inviare quel foglio? In via Zara, l'assistenza sociale, dovevo inviare il foglio, con il fratello è in pratica è stato trasferito lì alla Sagesta, hai capito? In pratica, in automatico, gli tocco l'accompagnamento e usavo la pensione per poter pagare la retta. E invece furba quella, cosa ha fatto? Non ha inviato niente, il Sagesta si è piatto 700 euro di mese, e adesso quando l'ha fatto mio fratello il mese scorso la visita, l'hanno trombato l'Inps. E devo restituire tutti sulle indietro, sono 512 euro ogni mese, e lui c'è un anno e mezzo, figurati tu, sono 5.000 euro fatti conteggi. Però vedi, di cos'è che non funziona. Cioè, per lo sbaglio di un ufficio ci deve sempre perdere il cittadino. L'ufficio che ha sbagliato non ha nessuna sanzione, se ne frega, capito? Allucinando, ma 50 euro al mese è detto, non 512. 512 euro al mese di accompagnamento da quando Giampiero è stato ricoverato via Saggesta, fate i calcoli, un anno e mezzo, sono 5.000 euro, 5.000 euro diviso in 50 euro al mese, perché Giampiero infatti gli hanno tolto l'accompagnamento adesso, e da quella pensione di 300 euro ne hanno tolto 50 euro, con quei 50 euro che gli hanno tolto deve pagare ogni mese fino ad arrivare a 5.000, hai capito? Eia. Cos'è capitano? Dai, riprendi Claudio un po', dai. Fra poco chiudo, dai, che sono... Boh. Sono uscito e non sono niente contento dell'uscita. Sono tornato con i coglioni giratti, scusate il termine. Accaldato e tutto, è insoddisfatto. Ah, piuttosto, c'è Gianfranco all'ascolto. Gianfranco, ci sei all'ascolto? Per un'informazione. Naturalmente. Ehi, ciao Gianfranco. Allora, ieri ho cercato su Google quell'indirizzo, l'ho trovato all'istante. Sono andato sul sito italiano e ho sentito le comunicazioni in digitale mandate da quel sito, dai. Funzionava perfettamente, però devo dire pessimo audio, è tutto tutto un po' robotizzato, ma è solo la distorsione del digitale o una volta che lo mandano sul sito c'è ulteriormente una perdita? Ma guarda, non operai anche adesso stanno trasmettendo sul 222 che è sull'italiano. Noterai che c'è solo qualcuno che distorce parecchio e si vede anche dallo spettro. Altri invece sono benissimo. Sono dentro in casa e però... È il vizio di parlare a voce alta. L'apparato non ci ha impostato la DC evidentemente. Ancora a peggio stanno usando degli apparecchi scadenti, perché anche quelli ci sono anch'io, e il risultato è quello di sempre. Un'altra cosa è che moltissimi, per ovvie questioni economiche, sono con dei piccoli portatili di moto economici. E succede che uscendo il bambino, ovviamente, se magari all'interno anche della macchina, succedono queste cose, il segnale non può essere sempre forte, magari passi c'è un palazzo alto e tutto il passaggio diventa così, è per tasse. Però in linea di massima l'audio, per la mia esperienza con i miei apparati, è sempre più che decente. Poi, ripeto, c'è un presente che fa tanti passaggi su tanti punti,